Da ogni euro c'è il vero fuori tutto. Fino al 17 gennaio la lavatrice Haier 10 kg classe A con cesto XXL e vapore refresh è tua a 499 euro. Perché ogni euro batte forte sempre. Beh, in una sera come questa, per dare un'introduzione a questa meravigliosa partita che sta per iniziare, ho cercato qualcosa di popolare, qualcosa di spagnolo, ed è uscita fuori una canzone anarchica che forse non è il posto appropriato per poterla ascoltare, però è l'unica cosa che ho trovato, quindi vi accontentate. E ragazzi, semifinale di Euro 2020, Italia-Spagna, benvenuti insieme a noi. Il pallone rotondo, io corro dietro al pallone per quasi un milione o forse di più. Io sogno sempre il gol, sogno sempre il gol, però faccio il portiere. Bellissimissima e meravigliosa la nostra sigla delle stupide creature, ragazzi, benvenuti. Aspettate, ragazzi. Ecco, bravi, bravi ragazzi, bravi, bravi. Però fatemelo rifare perché sto a fare un po' di casino. E stupide creature! Sì, è che devo trovare delle sistemazioni alle cose, ma prima o poi troveremo un posto. Marco Gualdi! Buonasera, buona, bella la canzone, mi è sembrato di sentire in quella canzone tipica dell'anarchia. Hai sentito? No, dell'anarchia. Ho sentito le parole ciucciamele bolas. No, quella è un'altra. Però mi sembrava di in runtime queste cose succedono. È vero, in runtime queste cose. Sugamele bolas. Sì, la balotas anche un po'. Walter Sbano. Buonasera, bentrovati, e chi se lo fosse mai creso che saremmo stati di nuovo qui. La dama della Dom, Michela De Paola. Quindi buonasera, veramente brava. Sono molto felice di essere qui, ma sto schiumando. Sto morendo. Schiumando. Non suggerire, deve farcela da sola. Hai ragione. E soprattutto, intanto cani che uccidono gatti, e soprattutto devo andare a cercare dei nuovi asburgici. Corrispondenti, sì. È vero, perché ricordiamo, sai, grazie a Michela l'altra settimana abbiamo fatto questi fantastici collegamenti da non so dove, parlando, insomma, addirittura abbiamo fatto un concorso, il concorso è diventato internazionale, ci ha risposto un tizio, noi non lo capivamo, lui non capiva noi, ci siamo insultati, ma poi non sappiamo se gli verrà mai recapitato questo. Ci occuperemo di ricapitarli, intanto se non so, non credo che ci ascolta, però salutiamo il mitico John, il nostro straniero che si è prestato a queste cose. Divertendosi un sacco. John McClane, se non sbaglio, giusto? Allora, la partita non è ancora iniziata, ragazzi, e fra un po' infatti andiamo con gli inni, andiamo con tutta l'introduzione. Vi dico che io non ho a portata di mano la mia trombetta, questa cosa un po' mi... Te la do io, la trombetta. Grazie. Non la pompetta, la trombetta. Sono due cose diverse. Faceva ridere questa. Bravo. Grazie della trombetta, grazie. Adesso mi sento molto più a mio agio. Allora, la coperta di Linus per te. Ragazzi, abbiamo l'occasione meravigliosa per sentire... Siamo dimenticati, ragazzi, c'è un momento un po' triste che poi tra l'altro si collega un po' anche a quello che sta per succedere in campo, perché voi sapete che l'Italia ha fatto tutto il preriscaldamento con le canzoni di Raffaella Carrà, che ieri ci ha salutato in maniera discreta e silenziosa, e devo dire che è una cosa che a me ha colpito molto questa cosa, non perché, voglio dire, purtroppo succede, fa parte della vita. E prima di, insomma, magari fare un giro di pensieri, sentiamoci due secondi proprio, insomma, qualcosa che la riguarda. Ecco, vi piace questa canzone? È bellissima, no? Si è impallato il programma. È una cosa bellissima. Comunque era ha saputo della tragedia. Bello, bello. Se è proprio una versione remix. Si è proprio piantato questo bellissimo programma open source con il quale facevamo gli assets. E quindi stasera sentiremo tutti. Come basta riavviare tutto il computer. Vabbè, sono sempre belle cose queste. Vabbè, in insomma, diretta, il bello della diretta. Sentiamo un attimo, per esempio, le stupide creature. Un pensiero, insomma, che ci possono fare loro il pezzo che abbiamo appena sentito. Lo potrebbero fare, però insomma, questo magari è bello far l'amore da Trieste. Stai in giù, brava. Tucca tucca, l'ho inventato io. Tucca tucca. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Ma che bella sinfonia, il mondo canterà. Bene, prima erano tutte uguali le canzoni di Raffaella. Fantastiche. Questo era un po'. Ah, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta in maniera traversa, diciamo così, perché io vorrei ricordare Raffaella Carrà, che comunque era una grande donna, rappresentava l'emancipazione, rappresentava l'intelligenza, la cultura, persona che parlava diverse lingue con una certa disinvoltura, una grande sensualità, ma discreta, educata, insomma, voglio dire, è stata la fidanzata di tutti gli italiani, gli abbiamo voluto bene, non tutti piaceva, però è stata un'icona, dai ragazzi, quindi insomma un saluto da parte di Runtime Radio e delle stupide creature. Grazie. Intanto il cane piange. Beh, perché ha saputo. Esatto, ed è triste per questa cosa. Bene, Walter Sbano, allora io direi che questo è l'inno della Spagna. E allora andiamo con la formazione della nazionale A della Spagna. La nazionale A che gioca in formazione tradizionale 4-3-3 con in porta Abelito, difesa a 4 con Alejandrito, Alonsito, Alfonsito, Alvarito, rombo di centrocampo con Anastasito, Alfredito, Angelito, in attacco 3 punte Armandito, Arturito, Aurelito, commissario tecnico Zaccaria. Scusa, giocano col 4-4-3, che cioè, cioè 4-3-3, è un doppio nome. Allora chiedere un parere musicale alle stupide creature. Mastini nazionali, ma sono tutti uguali? Ma si assomigliano, se vogliamo, no? Bastava farne uno mondiale. Esatto, che valeva per tutti. Ognuno cambiava, lo strumento, un po' il ritmo. Però ma poi neppure. Neanche. Bastava l'idea. Esatto. Ma perché li prendono tutti su questo sito di asset gratuiti, capito? Non è che. Io mi ricordo, non mi ricordo se nel 96, nell'87 o quando, insomma, fecero i campionati mondiali di atletica a Roma, non so se ve lo ricordate. E io, siccome che stavo tra quelli che facevano il volontariato, entravo allo stadio, insomma, fondamentalmente. E mi ricordo che a un certo punto ci fu una gara che fu vinta da uno di queste nazioni africane, queste nuove, insomma. Le nazioni canaglia. Sì, diciamo quelle che non hai mai sentito, tipo lo Sburgundi, capito? Cose che tu pensavi che esistesse solo nei film di fantasia. Della Marvel. Adesso inno nazionale dello Sburgundi. Insomma, era un po' moderno come tipo di inno nazionale. Perché però probabilmente era nato 5 mesi prima, insomma. Probabilmente. Quindi, giustamente, probabilmente, si adatta ai tempi. Probabilmente sì. E allora ci sentiamo. A volte può capitare anche il contrario, cioè che scrivano il brano prima e creino una nazione, cioè facciano una guerra per rassegnare. Esatto, per poter assegnare lì, no, una. Guarda che bel brano, c'è il cane che canta fuori e suona. Perché noi ci abbiamo, siccome che sa che questa trasmissione è un po' musicale questa sera, alla fine anche lei vuole partecipare facendo. E poi suona. Eh sì, perché praticamente il nostro cane ogni tanto prende presente quelle pupazzetti, quelle paperelle che fanno se tu le acciacchi, no? E lei praticamente le prende, le mozzica, qui ci fa come se, mi ricorda Bennato quando suona l'armonica, stessa cosa, no? Cioè, perché lei poi ci canta sopra, capito? E lei c'è tutto un suono veramente sgradevole. Ma sentiamoci, mangia fuoco. Esatto. Mm-hmm. Comunque, ragazzi, gli arbitri fucsia sono qualcosa da vedere oggi. Da vedere, esatto. Si pronuncia Faxia. L'arbitro, dall'altro, è tedesco, da quello che ho capito. Ma lo sapete, a proposito di Faxia, che dopo la diretta in cui avete parlato di fucking, questo paese famosissimo, gli hanno cambiato nome? Eh sì, perché tutta la gente andava lì a scopare, invece niente, non si rimediava, non si cuccava, e hanno rischiato una denuncia per pubblicità ingannevole, e quindi hanno dovuto cambiare il nome. Attenzione, chiediamo scusa ai fucking. Tecnico fucking dell'Italia. C'è Mancini che è andato a salutare il tecnico Benny Bernandez Zacarias, che niente, stava seduto e si è dovuto alzare per salutarlo. In una cosa, secondo me, l'ha anche un po' disturbato. Ma sentiamoci l'inno nazionale italiano. L'Italia se ne sta nell'erro di Cipio, se ci dà la testa, dove la vittoria le porca la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Speriamoci forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, per l'Italia chiamò, per l'Italia chiamò. Speriamoci forte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia. Bravissimi, bellissimo, bellissimo l'inno, sempre una grande esecuzione del quale non abbiamo mai parlato, ma comunque non fa niente, d'altronde la gente non capirebbe, insomma, questa è la cosa più importante. Ma è un'esecuzione, posso interromperti? Prego. Visto che mi hai dato la palla al balzo. Balzo, noi l'abbiamo suonato proprio perché era provvisorio, no? Sì, da 150 anni. E dopo che l'abbiamo suonato noi è diventato... È stato un disastro, veramente una tragedia quando abbiamo scoperto che diventava l'inno ufficiale. Anche perché il mixaggio era provvisorio, l'album era provvisorio, l'orchestrazione era provvisoria, l'armonizzazione era provvisoria, l'arrangiamento era provvisorio e noi abbiamo deciso di essere italiani. Provvisori, provvisori, esatto. Va bene. Anche il governo era provvisorio. Comunque, Marco, la formazione dell'Italia non abbiamo detto. Forse c'è, non so se c'è Francesco che potrebbe dirci, perché so che... Ah, è in collegamento anche lui, sì, c'è certo. Francesco! Bravo, devo ritrovare la formazione d'Italia. Te la ritrovo fra due minuti. Dai. Vabbè, ma sì, possiamo aspettare, tanto non ci interessa sapere chi gioca. Infatti poi andare anche un po' a credibilità. Allora, Michela, come funziona oggi? Partita secca, semifinale. Partita secca. Che succede? Chi vince va a casa. Ah, cioè tipo il contrario. Grazie. Quindi speriamo di perdere. Chi perde invece resta praticamente lì a prendersi la variante delta. Sì, chi perde aspetta di ammalarsi. Chi perde vince la delta. Sì. Che non è la lancia. Esatto. Tra l'altro, grande polemica, sapete, insomma, no? Che nonostante i 50.000 contagi al giorno della variante Delta, si è comunque deciso di giocare questa semifinale e la finale a Wembley, a Londra, insomma, con l'incazzatura di mezzo perché mondo. Perché loro ce l'hanno grosso. Ha detto Johnson, da non confondersi con Johnson & Johnson, quindi il monodose. Noi siamo inglesi, sti cazzi. Facciamo un po' come cazzo ci pare. Una nota di colore, quasi colora. Letteralmente. Vi ricordate che prima, giustamente, scientificamente, davvero tutte queste varianti hanno iniziato a dare il nome alfa, beta, gamma, delta, eccetera, eccetera. Però fino a qualche mese fa era diffusa la variante indiana, la variante sudafricana. Sì, non era uscita a uscire, aspetta. Appena hanno iniziato a uscire varianti anche in paesi diciamo caucasici, dove la popolazione è caucasica, delta, variante delta, sono diventati popolari quella con le lettere di reggae. Hai ragione. Se no avremmo continuato tranquillamente con la variante negra, variante... Ma io infatti voglio dare la colpa agli bravo africani, agli indiani, maledetti. Comunque la variante delta che c'è anche in popolare è comunque quella indiana. Bravo, bravo, veramente importante. Io però vorrei far notare, dato che questa cosa gli ascoltatori non lo possono sapere, intanto salutiamo tutti quelli in chat, Arturino Mazzè. prego. Scusate? Cos'era? È arrivato Simone Vailati. Ah, buonasera, ah, ecco. Buonasera, bravo. Ho appena mangiato, scusate. Sì, un po' un tocco così di classe ci sta sempre bene. Volevo far notare, dato che gli ascoltatori non possono vederci, che noi siamo con l'impermeabile questa sera, che esatto. È una cosa, ha una sua allora, motivazione. C'è un impermeabile sì, fucsia esatto. Per fare pandanna con gli arbitri. Esatto, e soprattutto abbiamo anche i calzettoni fucsia come gli arbitri, perché cioè, vabbè la maglietta fucsia, però cioè quel calzettone fucsia, ragazzi, cioè da quel tocco di stile, io non so come dirlo, ma cioè, voglio vestirmi così anch'io. E quindi puoi farlo, comunque nessuno te lo impedisce, ma noi l'abbiamo fatto. Infatti. Adesso il nostro bellissimo impermeabile fucsia che per adesso funziona al contrario, cioè praticamente impedisce al nostro sudore di uscire fuori, però praticamente fermate un secondo, perché qui perché dobbiamo usare l'animale di sorta. Fermate Peppone. Peppone. Fermate Peppone. Chi è Peppone? Non lo Peppone sappiamo. Il gibbone. Ah, il gibbone. Allora, Peppone il gibbone. Gibbone. Questo è spoiler. No, questo è importante, insomma. Allora, noi per il nostro, per la serie Salvate un animale, salvate il mondo. abbiamo appunto questa sera Peppone il gibbone. Volevamo bravo, buono, sì, perché si agita questo. Oh, è brutto che passi versi. Passi versi, è una scimmia urlatrice. Ah, scimmia, quindi non è un gibbone. È un gibbone. Gibbone. Scimmia, è un gibbone. Vabbè, comunque, in ogni caso, ogni scimmia è un gibbone. No, ogni gibbone è una scimmia. Stiamo facendo del razzismo, insomma, cioè, no, del body shaming, del tutto. Comunque, questa bellissima scimmia urlatrice dal manto nero. Stai, non è ancora il tuo momento. Okay, allora, si chiama Peppone. In realtà si doveva chiamare Simone, ma per ovviamente ci abbiamo due Simone. Sì, sarebbe stata confusione. Anche perché Peppone. Stai calmo. Adesso fra un po' fai la tua bella previsione. Ha un modo particolare di fare la previsione, sì. E cioè praticamente usa il lancio dello sterco. Allora, lui non ancora. No. Stai calmo, è nato. Allora, qui ovviamente abbiamo, dove c'era il cavallo zombie, non so se vi ricordate, abbiamo disegnato due parti. Una parte praticamente azzurra, rappresenta l'Italia, azzurra, e un'altra rossa. Parte rossa, che appunto rappresenta la Spagna. La Spagna. Allora, praticamente in pochi secondi dovrà tirare delle cacche sul muro, e in base al numero di cacche, sì, bravo, guarda, si sta caricando. Allora, no, perché guarda che Peppone è forte, io l'ho visto che abbiamo fatto altre cose, sempre sì, ma stai tranquillo, buona, che cavolo, oh. Sentite pure il cane, sei stato lì. Anche tu, grande figlio di puttana, ecco qua, Richard, capito? Vabbè, Richard, Richard. Poi prendi le nostre cose, no? Ho cercato anche di essere gentile. Pensa che stronzo. Però il mio istinto mi ha detto basta. Basta. Basta con quello che ci sta rubando. Bene, a Richard Benson gli è consentito tutto, quindi, però quindi... posso capire una cosa, perché Richard deve mortificare Peppone così? Infatti è vero, poi proprio... vabbè, comunque finiamo con sto Peppone, c'è Peppone che appunto lui tirerà queste cacche, in pochi secondi in base alle cacche si vedrà il risultato esatto. Ok, e quindi abbiamo dovuto utilizzare gli impermeabili perché gli schizzi di ritorno potrebbero ma essere, ma quando è che deve fare questa cosa? Lo possiamo fare anche subito volendo, non c'è problema. Peppone, sei pronto? Ce la fai? Sei pronto? Sì. Dai. Ciao, bravo. Ok, bravo. Mamma mia. Schifo. Apri un po' la finestra. Io ne ho tutto sporco. Io non tocco. Date un bastone. Ma come fa a contare adesso? Intanto. Adesso ci mettiamo lì. Che si è inceppato il gibbone. Mi sa che stavolta non arriva a fine serata, ma non sarà per colpa nostra. È fantastico. Si è sentito male il gibbone. Vabbè, sono cose che succedono. Adesso io e Walter ci mettiamo a contare la cacca. Tu conta la Spagna o la Francia o l'Italia? Cosa vuoi? Quello che vuoi tu. Dai, conto la Spagna, che mi sembra un po' di meno. Io Francia. La Francia? Sì, l'Italia. Vabbè, ok. Mi distrai, Peppone, stai calmo. Vabbè, quindi calmo. Adesso voi conterete, dopo ci darete il risultato e poi a fine puntata, come sempre. Esatto. Ok, vabbè. Comunque non è differente da quello che sentiamo tutti i giorni col cane in calore. In effetti il cane a un certo punto ha iniziato a fare lo stesso verso. E che è la cosa più inquietante, perché il cane nostro, dovete sapere, non abbaia. vocalizza, fa tutti questi versi un po' da gibbone, insomma. Quindi... perché sente e risponde, parla questa lingua. Da dove comune. Lo sente non lo so, perché stiamo tutti con le cuffie. Il però. Comune degli animali. Sì. Il gatto, il cane ci sente. Comunque la partita è iniziata da un po', ve lo volevo dire. Da un po'. Ma non è la cosa più interessante della trasmissione. No, dopo il gibbone. Non siamo poi considerate che noi guardiamo il... sempre in passato, nel passato. Così, ma io provo a entrare con Sky stavolta. Skype. Vediamo entriamo con Skype, vediamo che succede. Secondo me fa salta tutto. Sì, sì, anche io. Secondo me comunque. Comunque qualcuno le attacca. Attenzione, attenzione. Mamma mia. Ma stanno a centrocampo. Che dici? No, c'è stato un affondo mamma in aria mia, da parte dell'Italia. Mamma mia. Ma, insomma. Fuori gioco. D'altra parte fosse stato qualcosa palo. Avremmo saputo è palo, ma anche fuori gioco. Ma comunque azione fantastica, si è bevuto tutto. Complimenti. Scusate, però regà, una domanda, cioè io ho capito, io spero che non arriviamo supplementari, perché che cazzo avete dato a Magnà, Peppone? Quello che si bagna nei sci. Infatti, questo, cioè... ma anzi che te l'abbiamo dato l'impermeabile, capito, ma la pure la molletta per anche, naso anche i guanti. Hai visto, Walter, hai notato che belli che sono i guanti fucsia? Sì, ma sì, guarda, è bello perché ti puoi mimetizzare completamente con l'arbitro e con la merda anche. Sbano, ma c'hai il microfono girato al verso giusto? Io sì, non sono Marco Gualdi. Io ho solo un verso per cui scusate, mi sono medesimato stasera. Ma che dice il nostro gibbone? Si è tranquillizzato dopo aver fatto la cacca. Insomma, sì, vero? Perché lui dice: però poi dopo, alla fine, io mi domando: ma questi versi che lui fa, no? Questi qua, no? Vabbè, dai, boh, noi possiamo andare tutta la sera con io ho un po' la sensazione che lui abbia fatto la comparsa in qualche film di Dario Argento. Può essere, in effetti potrebbe anche benissimo essere. Allora, siete emozionati, cari stupide creature, per questa semifinale? Questa cosa vi... voglia, ma soprattutto per il gibbone. Il gibbone, cioè voi siete... parteggiate per il gibbone. Speriamo che questa volta sopravviva, no, il gibbone. Comunque, certo. Fra poco abbiamo risultati, io già sto a buon punto. Comunque il gibbone è la prova vivente che il tubo digerente parte dalla bocca e arriva al culo. Tutto a posto! Perfetto. Gibbone Peppone, sei un gran caccone. Hai problemi di digestione, gibbone, gibbone. Il tubo digerente parte dalla bocca, arriva fino al culo. Al culo! Alka-Seltz per il gibbone, che è bipolare, perché non riesce a digerire mentre fa cagare. Peppone, gibbone, puzzone, cagone, digestione falsata, cacca disciolta. E questa stanza, no, non ha più pareti, ma merda. È quasi una citazione sta cosa. Esatto, di merda. Di merda. Sentite, bravi, veramente assolutamente bravi. Sono e ricordiamo molto... che fanno tutto senza nessuna preparazione. Non conoscevano neanche il nome né l'animale né il nome dell'animale. Nel gibbone. Neanche preparazione H, fanno tutto seduti ma senza alleviare il dolore. Infatti, Michela, che dicono dalla chat? Dalla chat, aspetta che te lo dico, che stavo cercando di capire. Allora c'era Arturino Mazzei che no, stavo cercando di capire quanto lag c'era tra Sky e Rai. E allora Rizzar e Arturino ci salutano e poi c'è Alex che parla di cose sue, tipo che ha visto Ted Lasso e quindi adesso non vede nient'altro. E poi ci sei tu, basta. E che, niente, praticamente prima c'era anche Michele Schuren. C'era Schuren che Schuren cercava di capire se eravamo noi oppure no. Io gli ho confermato che siamo noi. Sì, siamo noi. Non siamo. So se e quindi sei andato. Ma siete voi, che schifo. Ma che siete voi, Gesì? Allora, questo mi ricorda una volta quando. Voi sapete che come si chiama? Il Trio Medusa ha iniziato in una piccola radio romana, no? Hanno iniziato. E praticamente a questa radio romana si poteva telefonare, perché di solito facevano questi talk show dove si telefonava, no? Si lasciava. Cioè adesso sentiamo gli ascoltatori. E una volta gli ho telefonato. Ah, sentite, ma quando finisce il programma, gli ho detto a questi. E loro dicono: perché non ti piace? Dice: no, perché stavo aspettando le stupide creature. Dice, sì, le stupide creature, scusate, magari insomma sarebbe stato bello. Stavo aspettando il Trio Medusa, dice: ma mi sa che oggi non ci stanno, ci stanno domani. Ah, vabbè, allora ciao. Beh, però dai, gli hai portato fortuna, avranno fatto carriera. No, no, ma loro sì, no, era quello là che faceva la trasmissione al posto loro, sì, che... Sì, si è mortificato, si è buttato al ponte da Riccia il giorno. No, non so se è mortificato, ma penso che erano avvezzi a ricevere telefonate di gente che li insultava, insomma. D'altra parte, gratuitamente, figuriamoci quando c'era il motivo, là. Sì, e no, questa manco era radio radicale, pensa. No, no, però a Roma, voi sapete, a Roma c'era Radio Chenoir. Radio Chenoir era bellissima perché era una radio dei vecchi, fatta per i vecchi, era tipo un'associazione tra virgolette culturale, che praticamente avevano messo da parte questi soldi e avevano messo su praticamente questo piccolo studio con questa emittente che poi praticamente trasmetteva tutta Roma in FM, quindi alla fine un costo c'era dietro, a meno che non erano dei piratoni infiniti. E questi facevano radio con le cassette, dicevano, ah, telefonava, Giannina, che mi sono operata a cataratta, che per caso mi metti, che bella cosa, giornata di sole, come... sì sì, vabbè, tempo che trovo la cassettina e te la metto. E sai, era così, era... E io gli telefonavo a questi qua, giustamente. Per insultarli. Esatto. Era un po' stupido da molto giovane, insomma. Ma tu pensi che fossero dei piratoni? No, il nome lo fa pensare perché Chenoir dal nero, capito? Cioè, ascoltate, Radio Chenoir, che è il musica jingle anziana ma non vecchia per tutti gli amanti della musica del secolo. Radio Chenoir, pronto. Questo è agilismo, che mi mettete, per cortesia, che mi mettete, no, mamma. Costanzo, no, lei guardi, no, Costanzo, mi lei no. Mamma. Costanzo, mi lei non è Costanzo, non è Costanzo. È un vecchio. È un vecchio qualunque. Mi piace, tanto, mamma, soltanto si dice. E poi come faceva, non mi ricordo. C'ho il cane che mi ricca, che schifo, ma il cane che mi ricca. Ragazzi, comunque è gravissimo il fatto che Geronto Gamer e Costanzo stanno praticamente convergendo. Esatto. Mauro stava finendo la canzone, comunque. Sì, scusate. Era finita, no? Siete stati bravissimi. Comunque ci sotterrerà tutti Costanzo, quindi. Ma se facesse i cazzi su, cioè. No, vabbè. Un attimo, ci sotterrerà tutti. Voglio vederlo con un badino in mano. Quanta lucida ironia. Voglio vedere Costanzo con un badino in mano. Finora l'ho visto solo con i baffetti e con quella camicia giusto collo di Noè Collofit, la camicia del Latin Lover Collofit. E se va bene. Comunque, scusatemi, prima mi guarda questa presa. Bravo. Prima era, vi ho lasciati appesi e che dovevo connettere, c'è la connessione che fa schifo qua. Ho finalmente ritrovato la formazione dell'Italia. Scusate, il ritardo è vergognoso. Se volete, la dico. Vai. Certo. Vabbè, dilla, oramai è per finire allora, la partita. Vabbè. Giuseppucci, Selis, Abbruciati, Nicoletti, Abbatino, Toscano, Colafigli, Nicoletti, di nuovo Pernassetti, Carnovale. Mancini il CT e invece in panchina Carminati, Mastro Pietro, Paradisi, Danesi, Mancone. Sono sempre troppi, comunque, non voglio dire. Però comunque erano 11 e 4 in panchina. Ragazzi, col fatto che l'arbitro non conta, abbiamo vinto 5-6 partite di fila, perché il segreto è quello, giocavamo in 14. Non sanno contare gli arbitri, infatti. Infatti mi sa che stasera hanno messo le magliette fucsia per capire meglio i numeri, per capire il meglio loro stessi, le numerazioni anche, esatto. E che c'entra la maglietta fucsia, c'era l'arbitro, mica lo so, ma infatti perché così io so fucsia, quindi non mi metto nel conto. Quindi, ok, perché tu dici sì. Potrebbe essere arbitro dalla magliana fucsia che cerchi di arbitrare in modo corretto, ma sei un disonesto corrotto e hai tanti soldi nelle banche e nascosti in luoghi segreti. Arbitro che sembri Ben Urich quando correva per la Telecom nel 1988. Fai mente locale, pentiti e arbitra con dignità e restituisci i soldi, corrottone. Sei proprio un corrottone. Cioè restituisci i soldi, corrottone. Arbitro, la corruzione prendi soldi anche per indossare quella maglietta fucsia. Fucsia. Fucsia. Fucsia. Con la maglietta fina fucsia che puzza di sudore. Bene, abbiamo una telefonata però, scusate, pronto? Pronto? Sì. Raggio Tenua? Sì? Vorrei sentire una canzone molto bella dei miei tempi. Sì, sì, sì, no, sì però sì, devo cercare la cassettina però. Sì, dimmi, ma se ti dico il nome che te cerchi, fammi vedere il nome e poi ti cerchi la cassettina. Hai ragione, potrei anche avercela a portata di mano, è vero, hai ragione. Sì, sì, comunque si chiama Tat. Ah, salsa, vuoi sentire salsa? Ho capito. Va bene, va bene, ce la sentiamo allora, va bene? Sei, grazie, sei contento, grazie, vecchio? Sì, morirò felice stasera. Okay. Speriamo. Ciao. Ciao, vecchio. Mi raccomando, saluta tutta quanta la famiglia e... Tengo un sorriso assai smagliante, alla città non importa. Sono una persona interessante, alla città non importa. Tengo passione per la vita, alla città non importa. Sono una persona más linda e pulita, alla città non importa. Tengo una voglia molto ingombrante, alla città non importa. Sono un instancabile amante, alla città non importa. Tengo un guidinero e viaggio in elicottero, alla città non importa. Sono un hombre muy sincero, alla città non importa. Oh, Luciano, cos'è questa città? Non sé, non sé, non sé, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa città? Non dico che non sé, non sé. Tengo brillantina sulla cabeza, alla città non importa. Sono sicuro che non lo fessa, alla città non importa. Tengo camisa firmata alla moda, alla città non importa. Sono uno che beve il limonsoda. E sti cazzi. Tengo Marichiones come amico, alla città non importa. Sono un tipo iperattivo, alla città non importa. Tengo la macchina sportiva, alla città non importa. Sono molto attratto da sta chica. Oh, Luciano, cos'è questa chica? Non sé, non sé, non sé, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa chica? Non sé, non sé, non sé, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa chica? Dire, oh, Luciano, cos'è questa giga? Lo sento, lo sento, lo sento, lo sento. Oh, Luciano, ma io sono Francisco. Ma Luciano, sono me. E la chica? La chica si è muerta. Ecco perché alla chica non importa. Oh, e torniamo ragazzi, mentre c'è questa sfuriata finale del brano, per cercare di capire, Sbano, è successo qualcosa durante queste... Nulla di importante. Di rilevante. No, le due squadre si equivalgono un po', di conseguenza... Cioè, è il vecchio che sta morendo? No, vecchio. Però felice. No, ma che vecchio? Cioè, regà... stai perché stai... Merda. Stai io accontando... Io non so battere, tu sta bene. Mi sa che te ne hai contato di più. Perché... sì, un po' di più di io ho contato all'aria, infatti... Io ho contato tre merde piene sul muro, le altre erano fuori. Ok, ma tre, tre merde da che parte? Dai, no, io guarda, devo dire che tolto un paio di sgommatine, ma erano scoregge, mi sono fermato a due. Due, quindi 3 a 2. Ah, quindi vediamo, praticamente. Vediamo se è contento il gibbone. Sì, non è. È morto il gibbone. No, gibbone. Intanto vedo, mi scuso. Devo riaprire il collegamento. C'è, cioè, credo, un calcio d'angolo. Sì, assolutamente contento. 3 a 2. Sì. Guarda come si agita. Guarda. Bravo Peppone. Bravo. No, però non tirare altra merda. Basta. Basta Peppone. Ok, basta. Vabbè, Simone lo stavi chiamando. Sì, perché lui si chiama Simone in realtà. L'abbiamo ribattezzato Peppone all'ultimo minuto. Va bene. Quindi. Adesso, se ci sono in diretta due marche. Bisogna conoscere per parlare. La gente non le conosce. La gente non le conosce, capito? Bisogna conoscere i veri valori della musica tecnica, rock. Ma mica parlo di Giovanotti, Antonacci, Carboni, Grignani, no? Parla delle stupide creature. Tutta quella merda. Allora dico che anche la merda avrebbe valore se l'uomo nascesse senza culo. Allora, bellissima questa, ragazzi, la prossima volta voi mi dite: guarda, stasera c'è anche Richard, io mi vesto bene. Infatti, no. Quindi praticamente la merda avrebbe valore se noi nascessimo senza culo. Ragazzi, è saltata la diretta streaming della Rai, quindi esatto. Se sta succedendo, secondo me può succedere qualsiasi cosa. Dite, a me non è saltata, io sto vedendo. Sì, a me che a Marco è saltata. Sì. Quindi secondo me c'è un attacco. Io ho visto solo Mancini che si stava lamentando con non so chi e sta andando avanti la partita. E stupide creature. Stava lamentando perché è saltato il collegamento. Facciamo parlare anche le stupide creature che sono qui con noi, pensa, ci sono anche loro. Io direi la mia su Richard, che è un grandissimo uomo e soprattutto che non si può dire che non sappia delle tradizioni sapienziali e non le tramandi nel tempo, perché veramente sono delle massime, penso antichissime, di paesi molto più avanzati di noi, anche se erano a livello, diciamo, temporale arretrati rispetto al nostro. Ma Simone Velati, che è andato in ferie per almeno tre partite, vorrebbe aggiungere qualcosa su Ricciardo. Adesso è un metra pensé. È un metra pensé per tutti noi. Per tutti noi, oh Richard Benson, metra pensé. È anche un grandissimo chitarrista che suona musica tecnica. È un po' ci manca, sarebbe bello fosse qua fra noi in questa diretta live. Ma in realtà è con noi, Mago. Ma in realtà è con noi in spirito. Viva Richard Benson, dove sei? Benson di Cavour, tu sei per tecnico col tuo indice della mano sinistra, super velocissimo, issimo. Col tuo medio della mano sinistra, viva Richard Benson. Lui ti saluta così. Grande Richard. Purtroppo Richard Benson, sappiamo che non se la sta passando un granché bene. Anche se da quando ha lasciato il suo messaggio che non se la sta passando un granché bene, ancora non è morto. Quindi, insomma, diciamo che tutto sommato se la sta passando bene. Esatto, sta passando più rispetto alla morte, più bene di alcuni che non ce l'hanno fatta. Ad esempio. Ragazzi, ma voi lo sapete che io conservo come una reliquia antica il DVD edito da Playgame Edizioni Musicali, che era dello zio di un amico, dei Guitar Tricks di Richard Benson. No, però adesso ce l'hai detto. Verremo a casa tua a rubarlo. Ragazzi, voi scherzate. Io direi che potresti farne una copia per le stupide creature, perché loro potrebbero essere loro sono dei fan, molti, molti hanno conosciuto al nord Richard Benson grazie a Marco Bianchi, insomma, tanto sì, confermo che i meravigliosi video grazie all'internet, questa invenzione giovane, esatto, abbiamo potuto visionarli e non solo, li abbiamo potuti diffondere e diciamo che sono entrati a far parte del, se non della nostra cultura, della del nostro divertimento personale, ma più che altro abbiamo imparato molto, ecco, da lui. In pratica avete sparso il verbo come il gibbone. Attenzione quando parli di spargere. Esatto, no, è per quello volevo fare questo parallelo. Abbiamo sparso il sapere, esatto, di Benson. Intanto io provo a vedere se riusciamo a far vincere un ennesimo Cavolo Verza, io ormai dimentico questa cosa perché insomma è l'età, è un po' l'età. Un po' il caldo. Proviamoci, perché attenzione, potrebbe succedere che magari ci dice il numero telefono. Attenzione, squilla, attenzione. Attenzione, questo è un momento. Simo? Lei è? Lei è su? Su? Lei è su? Dove sta? Lei in questo momento è su? È su? Su? Su, ra, su. Forza, su, forza. Su. Lei è ra, su? Ra, ra, tre. Sì, ma fatelo parlare. Due. Su. E niente, ha perso niente. E noi volevamo farle vincere un cavolo Verza, ma non. Questa gente. Lei non l'ha voluto questo cavolo Verza. Ma il cavolo Verza fa male a quest'ora, ragazzi, però. Però sarebbe arrivato domani. Però lei non ci ha risposto. Io ve lo dico, ho beccato l'ennesimo carnatariano che mangia soltanto bistecche. Che cazzo. Secondo me lo stiamo disturbando. Lui stava pomiciando, secondo me, in questo momento. E noi giustamente. Magari, sul serio. È stato molto divertente. Ah, ok, invece cosa vabbè, allora non vogliamo sapere. Niente, ci dispiace per il cavolo Verza, perché insomma sarebbe stato bello. Cavolo Verza orfano del proprio proprietario. Ok, comunque la prossima volta dovesse succedere, lei di rispondere sono sul Runtime Radio. Anche così, se chiamasse bello. Albertino e esatto, esatto. Parte che lui c'è sul Runtime Radio. Esatto, lui poi in particolare c'è sul Runtime Radio, però lui in questo momento doveva far finta di ascoltarci, questo che, almeno finta, insomma, no, okay. Niente, zero. Grazie caro Leo Vargheon. Prego, ragazzi. Lei è stato molto utile, grazie. E propositivo, come sempre. Grazie. Le vogliamo bene. Anch'io. Arrivederci. E niente, cavolo Verza stasera. Insomma, sono già due puntate. Vabbè, che non magari usciamo... possiamo fare altri tentativi più tardi. Più tardi, magari sempre con lui. Niente. Comunque, l'Italia se la sta giocando la partita. La ragazzi. Sta giocando. Dollarum ha fatto una bella parata. D'altronde sta lì apposta. Mi chiedo perché io non ho guardato mai le partite con Sky, che praticamente è tutta un'altra vita. Infatti, no, però. Ma mo ce lo vuoi far pesare il fatto che tu c'hai soldi e c'hai Sky? Che è no, sto soldi. No, ma tra l'altro ci sono anche delle polemiche. Voi sapete che Caressa sta facendo queste telecronache che per emulare un po' le telecronache del 2006 sta praticamente un po' enfatizzando questo suo modo di fare le telecronache, strilla come un pazzo, roba del genere. E pare che questa cosa, insomma, abbia generato, insomma, l'indignazione anche nelle stupide creature. Che insomma fanno riferimento al fatto che insomma bisogna essere sempre un po' imparziali quando si fa una cronaca, giusto? Assolutamente sì, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Ma Simone Vailati vuole dirci qualcosa, perché lui è molto ferrato sul fatto imparzialità, ci tiene proprio perché è molto ligio a queste cose. Sì, esatto, grazie Mauro, infatti bisogna sempre essere molto pacati quando si parla di... Per forza, dai, tira, gol! Bravo, è così che si fa. È così che si fa, eh. Spano, io però questa cosa è qualcosa è andato storto nella riproduzione, non ce l'ho. No, vabbè, nel frattempo siamo rientrati. Ma non ce l'ho nella mai riproduzione ti può andare storto qualcosa, esatto, mica sempre succede la procreazione. Spesso è la riproduzione stessa che significa che qualcosa è andato storto. La riproduzione è una brutta storia. È un miracolo la vita, è una brutta storia. Miracolo e a volte non si capisce neanche come mai esatto. Succede. Miracoli che a volte soltanto il vicino di casa può spiegare. Io ne conosco ne conosco delle ragazze che sono tornate a casa e i genitori gli hanno detto: io non so che cosa sia successo. E quindi non possiamo che non citare, visto che è un programma calcistico, è tornato UEA. Ah, e Barisi è di nuovo papà. Insomma, anche, sono quelle cose un po' razziste. Ma giusto un po'. Attenzione, gli spagnoli si rendono pericolosi. Un olmo, che è una cosa abbastanza. Però gli olmo sì, era abbastanza vecchio, hanno deciso di segarlo. E quindi, esatto. Però l'abbio ha detto va bene. Va bene, Michela, che ci racconti? Tu sei un po' impegnata tra la chat degli amici tuoi e il cane che... No, no, degli amici miei no, che ti si ingroppa. Sto guardando la chat, ma sto anche purtroppo dietro a... Il cane che praticamente è scimmia ovladrice. Sì, è una scimmia ovladrice. E niente ragazzi, stanno calori adesso. Scusate, la scimmia ovladrice è la scimmia ovladrice. Ma quante settimane deve durare ancora sta pippa? Perché insomma... Una settimanella. Una settimanella se sopporta. Guarda, preciso, per quando finisce l'europeo. Così poi potete andare in domenica finisce l'europeo. Tra l'altro vi ricordo che domenica, indipendentemente dal risultato, è l'unica partita che faremo anche se l'Italia non si qualifica. Quindi la finale è sicura, domenica noi ci siamo sempre. Ma è domenica la finale? 20:45, yes, sì. L'11 luglio comunque... che è una data che sportivamente a noi ci ricorda una cosa importante, Sbano, l'11 luglio. Andiamo a Berlino, Beppe! No, non è che, la presa della Bastiglia. Non è che tutto, sportivamente ho detto... L'11 luglio del 1982. Andiamo a Berlino, Beppe. A Berlino, sempre Berlino. Beh, c'è stato il famosissimo, cioè una partita epica, una finale dei mondiali Italia-Germania. Bravo, bravo. 11 luglio 1982 e io me la ricordo bene perché... Andiamo a Berlino, Beppe. Beppe non era a Berlino, però era al Cremlino, no, in Spagna, no? Era in Spagna, era a Madrid, al Santiago Bernabéu. Nel 2006 era sempre la stessa cosa. Sempre, sì, sempre 11 sempre, luglio. Ma non era 11 luglio. Luglio. Sempre, o 9 luglio, non mi ricordo. 9 luglio. Sì, comunque attenzione, luglio perché era attenzione. Niente, è successo niente. No, comunque devo dire, era ragazzi, il 12 luglio 2006. Va bene. Ok. Intanto sento fuori dei cani che abbaiano, non è che la trati l'11 luglio terizi. Abbiamo vinto i mondiali. Ah, pure il 2006. Ma pensate che roba, pensate sempre che 11 roba. Luglio, sempre. Tu dov'eri, Francesco, l'11 luglio del 2006? In camera mia a suonare, non me ne fottevo un cazzo. Bravo Francesco, è così che si fa, viva la cultura. Ma perché cultura. Ma perché non c'era Runtime Radio, chiaramente? Se ci fosse stata, perché non c'era Runtime Radio, se ci fosse stata sarei stato in casa a suonare, perché non me ne fregavo un cazzo, però c'era Runtime Radio. Però c'era Runtime. Però Francesco, forse c'è una sorpresa per te. Non so se si hanno fatto a tempo a recuperarlo, ma forse le stupide creature hanno il pezzo che stavi suonando quel giorno. Io forse non sì, so se ci sono riuscito. Pure secondo no, me. Però sta cosa mi inquieta. Lo so, ragazzi, ma la vita è quantistica. È l'11 luglio e sono a casa a suonare da solo. C'è il mondiale, ma non me ne frega un cazzo. Suona, mi diverto, incremento la tecnica e soprattutto la creatività. Mi faccio le pippe. Al posto di guardare il mondiale, che tanto lo so già, che l'Italia vincerà, vincerà, vincerà. E siccome non me ne frega un cazzo, vado avanti a suonare. Bravi, bravi veramente ragazzi. Intanto la partita è... Ci confermi Francesco che era proprio questo che stavi suonando in quel vero giorno. Il flauto a pelle. L'aveva scritta lui. No dai, cominciamo a fare queste battute veramente volgari. Cioè chi la suona con i denti, la stavo suonando. Ma tu facevi anche il controcoro, quello le pippe, quello lì, cioè facevi pure quello? Sì, però da dietro. Da dietro. Da dietro, no, cosa? Un pochino più grave, una cosa complicata. Sì, un'altra chiave. Eh sì, sta la chiave di la chiave, la chiave, trasposto, la chiave di dietro, la chiave di dietro, la famosa chiave di dietro. Come Francesco, anche madrelingua, lui la faceva con la chiave inglese, giustamente. Bravo. Esatto, grande. The Monkey Branch. Branch. E vabbè, niente, tanto penso mi stanno scrivendo gli insulti sulla cosa della telefonata a sorpresa, avete ragione. Io invece farei tornare una rubrica, insomma, che a noi è molto cara, soprattutto in runtime di notte, dove Marco Gualdi ci racconta da dove deriva questo brano musicale che facciamo sentire in questo momento. Marco Gualdi, la riconosci? Questa dovrebbe essere Blue Eyes in the Glass, mi sembra. Degli Scorched Tree Plains with Thunder Fire Down the Hill, dall'album omonimo. Eh sì, esatto. E questa era la loro fase. Extended. Sì. Posso dire che trovo offensivo chiedere queste cose a Gualdi la sera in cui c'è il maestro con noi? Chi è il maestro? C'è Richard. Hai ragione, ma Richard. Però io ti sento male, Sbano. E io. No, io mi sento bene, sai. No, non so. Guarda, non stai bene, stai tranquillo. Ah, quello è un fatto di. Ok, quindi va bene. Questo album era l'album d'esordio di questo gruppo, che è famoso perché praticamente suona con strumenti green, cioè che praticamente riciclabili. Di cartone, capito? Come fai la chitarra elettrica col cartone? Non lo so, però sono bravi, lo fanno. Insomma, usano la chitarra di cartone e poi quando la rompono la riciclano. Cioè, è tutto molto ecosolidale, insomma. Che poi se non... quindi se non sbaglio, con questi strumenti green hanno fatto pure la cover dell'inno della Lazio, no? Quindi... La maglietta, però dopo la maglietta. La maglietta sarà fatta con la chitarra. No, perché quello ha fatto il concerto. Nella foga del concerto ha spaccato la chitarra durante il concerto. E riciclando la chitarra ci hanno fatto la maglietta della Lazio. Esatto. Quindi, insomma, tutto quanto. Sono cose. Che poi, tra l'altro, se non ricordo male, Simone Vailati conosce un liutaio che fa strumenti con il cartone, no? Giusto? Con del finissimo e pregiatissimo cartone importato dall'Alaska, nota zona famosa dove viene prodotto del cartone finissimo e pregiatissimo. Oltre alla barbabietola da zucchero, ovviamente. Chiaramente. Vabbè, quelle ormai sono già surgelate. Sì. Bene, che succede in campo? C'è stato un momento di pathos perché l'Italia è arrivata in area, c'è stato un bel tentativo che però diciamo non ha poi permesso ad Insigne di arrivare al tiro. Vabbè, comunque. Ok, intanto sentiamo dei cani che abbaiano in lontananza. Michele. Ma il nostro è morto. Cioè, improvvisamente. È vero, è vero. Improvvisamente dopo. No, praticamente la scena è un po' tipo la narcolessia. La scena è. Come i furetti. Inquietante, davvero inquietante. Per esempio, per la finale potremmo trovare gli ormoni. Gli ormoni purtroppo fanno questo e altro, insomma. Un furetto di un tedesco, un fiureretto. Fiureretto. Intanto c'è il guardialine che alza la bandierina. Il che significa, Michela? Che evviva Raffaella. Ah no, pensavo che erano pronti a partire. Significa che deve decollare l'F-16. Io sento i nuggets però. No, oggi è la giornata mondiale del pollo fritto, tra l'altro, quindi c'ha senso. Vorremmo sentire una recensione dall'espertissimo Marco Gualdi. Gualdi, vai Gualdi. Questo brano fantastico, allora, bellissimo. Sì, infatti questo brano è praticamente tratto da un album omonimo e parla di questi nani assassini, nani con l'accetta, nani con la l'ascia chiodata, con la mazza, con il tritacarne, con l'ascia di fuoco, la alabarda spaziale, il tritacarne, l'ho detto già il tritacarne perché ce n'erano due di nani col tritacarne. Dove ogni volta che dice i nani, in realtà sta citando un nano specifico di questa orda di nani che praticamente forma l'esercito dei nanei. Dei nani. Allora c'è il 9000 che ci tradisce. O dei naniti. O dei naniti. Con il maxi schermo del campeggio. O dei naneti. Anche io vorrei andare a vedere il maxi schermo del campeggio. Che cosa danno? Dici un po'. Ma soprattutto perché non ci va. La puntata 16 dei nostri. Questa però non la vanno capito. No. Però potremmo fargli sentire un estratto. Comunque, io Marco sapevo una versione diversa della spiegazione dei nani. Sapevo che in quel periodo Richard Benson voleva candidarsi in Forza Italia e aveva dedicato questa canzone a Berlusconi. Anche sì, ma quello no, diceva Brunetta. Brunetta. No, c'era per gradi. Al PDL, diciamo in generale. Non c'erano molti dei nani. Esatto, e vabbè, però poi tra l'altro, siccome che Marco Bianchi in realtà poi alla fine ha subito un po' questa influenza sia tecnica che artistica, perché soprattutto tecnica, perché ricordiamo che Richard Benson è quello che ha inventato la scala multifonica, la com'era? Tetrafonica, non so. Richard Benson ha inventato la tecnica in generale. Ha inventato la tecnica, esatto, e che lui era più bravo di Malmsteen e Pat Metheny messi insieme, giustamente. Assolutamente. E quindi praticamente sì, sì, sì. Tu hai subito un Pensa po' questo. Che Brian May gli spiccia a casa. Spiccia a casa. Tu, Marco, hai subito un po' l'influenza di questa cosa, no? Sì, sì, sì, sì. Era sicuramente un'influenza aviaria. Anche perché appunto i postumi si vedono ancora oggi, ma la cosa che più mi ha influenzato della storia di Richard Benson senza ombra di dubbio non è soltanto la sua musica, che già basterebbe riempire la vita di chiunque, bensì la sua filosofia e tra le sue frasi più celebri io vorrei portare voi tutti all'attenzione di questa, che probabilmente a molti è sfuggita, ma che ha un valore intrinseco sostanziale e nella vita e nella musica. Ecco, questo era, ecco, sto questo senso là, mi avete fregato pure dal lato, mi prendete, ormai non posso più scappare dai vostri perfidi latti, vero? Mi controllate dappertutto, pure tutta l'estate, sempre qua dentro a lavorare. Questa ma non è un lavoro questo. Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi, sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia, hai la creatura, io sono creatura, non posso lavorare. Ecco, qui credo poeta, che ci sia poeta. Tutta esatto. L'animo del poeta. Qui c'è tutta la credo filosofia di del Benson nazionale. E qui che Esther si è innamorata di lui. Sì, ha esternato, infatti. Esatto. Esternato, esatto. Bello. Questa è veramente un colpo. Un capolavoro del però penso che stia succedendo qualcosa, perché sento la gente strillare di fuori con sommessa poco strillo però diciamo che questa si preannuncia una puntata lunghissima già te sei rotta e noiosissima. Assolutamente brava, sì, Michela, grazie sempre bello fare le puntate con Michela, perché c'è proprio già neanche iniziata oggi si è rotta i coglioni. No, perché io quando vedo che dopo il 40° minuto nessuno fa gol Ma tu stai qui a chiacchierare con noi, a sentire musica. Tra l'altro adesso insomma vi dedico un brano fra un poco, insomma, c'è il tempo... a che fare con i nani forse sì diciamo mamma mia. Indirettamente c'è a che fare con i nani, ma non so se è un brano commerciale o se insomma è liberamente distribuibile. Sicuramente sarà commerciale in Creative Commons, sai che non lo so, perché alcuni brani erano comunque liberamente distribuibili, perlomeno i primi, poi non so adesso insomma questa cosa qui. Perché vi voglio dedicare questa canzone? Perché in realtà ci sono dei miti, che veramente altro che Richard Benson, che alla fine diventano dei miti effettivi, dei miti veri, e che insomma ogni tanto gliela mollano, perché la musica è anche una roba seria, insomma. Hai detto dei mitili? Mitili, esatto. Mitili. Insomma, vi voglio dedicare questa canzone. In Valtellina ci sono gli shat, la bresaola, i pizzoccheri, e c'è la polenta taragna. Tutti la vogliono mangiare, gustare, assaporare. Tutti la vogliono cantare. Polenta taragna! Allora, questi fanno la musica che... cioè, le canzoni fanno ride, no? In teoria. Però, cioè, ma quanto pompa sta roba? E questo è Mastroda, attenzione. vabbè, dai, prima che la CIA ci viene a prendere, insomma. Ma Mastrota, che vabbè, già gli avevano fatto, che si è trasferito tipo nei montagne. Sì, ma qui non è un omaggio, c'è proprio lui nel. Sì, appunto. Dico... Sì, insieme a Johnny Lindo Ferretti. Sì. Marco, di chi stiamo parlando? Sono i Nano World Steel, che sono usciti con questo nuovo pezzo qualche giorno fa, una settimana fa, 10 giorni fa. E narrano in versione norrena della polenta taragna rock. Infatti taragna rock, esatto, della Valaltellina. Cosa ne pensano le stupide creature di questo, dico, tanta bellezza? Che la polenta taragna è buona, che la Valtellina ci piace, che la bresaola la mangiamo anche noi. Io no, sono vegetariano. Da quando? Da quando ho sentito questo brano. Non lo so, io l'ultima volta che ho mangiato con te stavamo a una Vienna House e ti sei mangiato una cotoletta più grossa del braccio tuo. Era vegetariano. Era vegetariano. Ma io sono vegetariano. Sei sicuro? Vabbè. Ma lui mangia gli animali e solamente quelli che mangiano i vegetali, esatto. In quel senso lì è vegetariano. Mangia vegetariano. Esatto. Oppure secondo me era un'altra persona e lo stai confondendo con qualcun altro. Ma che ne so, dai, su, stava suonando, facciamo suonare. Gastrocnemio dopato di un calciatore che nella sua gioventù è stato derubato. Niente discoteca, niente gite con gli amici, solo correre dietro a un pallone. Rischiando la salute con il doping per fare crescere il polpaccio in modo abnorme. Polpaccio come quello di Karl-Heinz Rummenig, un polpaccio mitico che era grosso come il torace di una persona normale, un polpaccio che quando lo guardavi ti diceva che cazzo vuoi, talmente era aggressivo, un polpaccio che sudava copiosamente come le ascelle di un individuo normale, un polpaccio che viveva di vita propria, un polpaccio che ha rovinato giovani, ha rovinato anziani, ha rovinato donne, uomini, bambini, un polpaccio che viveva di una vita propria, un polpaccio che quando gli giravano i coglioni andava a fanculo. Karl-Heinz, hai distrutto il mito del calcio col tuo polpaccio. Generazioni han provato ad emularti dopandosi, ma non ci sono riusciti. Ci mancano i polpacci, specialmente lo stinco con la polenta. Benissimo, benissimo. È finito il primo tempo, ragazzi. Proprio a scadere il primo tempo c'era un rigore per l'Italia. Era scoglionato pure l'arbitro, non ha dato recupero. Sì, che palle, li ha mandati negli spogliatoi. Dopo c'era rigore, hanno protestato un pochino. Mancini un po' incazzato, diciamo. Una puntina, però insomma, dai, sì. Insomma, diciamo una partita equilibrata e corretta. Quindi tutto sommato. Tutto sommato, se te levano un rigore, chi se ne frega. Salutiamo Puccio che e chiede a Francesco perché ha nominato il suo amico Giovanni Lindo, amico di tutti. Io no, lui è davvero amico suo, cioè, perché si racconta che una volta si narra ebbero una discussione dopo un concerto, solo che che esistono documenti fotografici secondo Puccio, solo che non si ricorda assolutamente di quello che hanno parlato perché era completamente ubriaco. Solo guarda caso da quel momento in poi ha iniziato a sbroccare in modo esplicito Giovanni Lindo. Quindi è stata una serata che gli ha cambiato la vita. Mazza, che racconto avvincente, proprio interessante, proprio come non so, però è la più bella la canzone, quella sul vecchio, quella del vecchio, quella mi piaceva, insomma, bello, bello. E soprattutto la filosofia di Richard Benson che c'era con la madre. Allora, ragazzi, fine primo tempo 0-0 tra Italia e Spagna, semifinali di Euro 2020. Io metto un brano degli Stupidi Creaturi metto stima. Che sono gli stupidi bambini. Che sono dei bambini stupidi. L'importante è che siano stupidi, quella è una cosa importante. Perché se sei creatura, sei bambino, sei stupido. Se non sei stupido, non te vogliamo. Non c'è requisito, giusto, Marco? No, in realtà quello che pochi hanno scoperto del nostro gruppo non è il nome del gruppo, cioè non so, io so che potrei scioccare voi tutti, in realtà sono l'appellativo delle nostre creazioni, cioè le nostre creazioni sono le stupide creature, in realtà noi siamo il primo gruppo senza nome. Bella sta cosa, mi piace, devo dire, veramente bravo. Senti, ma che fai, lo lanci tu il brano o lo lancio io? Allora, lo lancio io perché abbiamo qui con noi, tra l'altro, la cantante ufficiale di questo brano, che si intitola Stima, che tu poc'anzi hai dichiarato, che è, signori e signori, Ilaria Soprano. Brava. Quindi sapete che Ilaria ha cantato questo brano dal vivo, ascoltandolo soltanto una volta. Abbiamo cantato davanti a 45 tossici che hanno apprezzato e hanno gradito questo brano per vari motivi. E se volete possiamo fare due domande a Ilaria, che è qui con noi, intanto ne approfitterei. Ok, vai, così poi lanciamo il brano e noi ci andiamo a prendere la birra. Che ore sono, Ilaria? Aspetta, non sono preparata. 21:49. Beh, veramente bravissima. Brava. Sentiamo il brano. Forse è meglio anche. Ciao, sono qua per parlarti con poche parole, ma molto importanti. Ma non lo so cosa c'è tra noi due. Famosi, che freddo che faceva di notte, per fortuna che c'era la Deborah Capotoglio con quelle belle zinnone, io me la stringevo tutta forte contro, mi scaldava tutto. Ciao Geraldo! Ciao Gian Astolfo, come stai? Bene, grazie, ora che ho fatto il vaccino anti-influenzale sono perfettamente in forma e non corro il rischio di ammalarmi perdendo così importanti giorni di lavoro. Che figata! Ma Gian Astolfo, noto che hai un qualcosa che non so, non riesco a capire. Forse ti riferisci ai miei arti superiori completamente immobili? Sì, ecco, proprio loro. Ma cosa è successo? Non ti devi preoccupare, è un effetto collaterale del vaccino. Ma no! Ma sì! Ma no! Ma sì! E le tue gambe? Mi pare che prima le avessi entrambe! Certo, ma ora me le hanno momentaneamente amputate! Di un po', Gian Astolfo, ma non era meglio non farlo sto vaccino? Scherzi? Per doversi fare 5 giorni di malattia noiosissima? Hai ragione, mi hai convinto! Corro a vaccinarmi! Tesoro, l'hai sentito l'ultimo disco delle stupide creature? Fermati, vieni qua che te lo faccio sentire a casa mia. E se unisci il blues e il invito pure Jackie Pavone e la Deborah Capotoglio. Che zinnone quella donna. È arrivato la rotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da coltelli, forbici, coltelli da forbici, forbicine, forbici da fumo, coltelli, prosciutto, gli ombrelli, l'ombrellaio. Ripariamo l'ombrellaio, donne. Questa è, penso, la perla finale del brano, che è assolutamente, cioè, come possiamo, il mortacci di tuo nonno è che tra l'altro c'era la famosissima canzone di origine insomma orientale, no? Alimo e Tacitù erano due fratelli indù. Alimo ci aveva sonno, Tacitù e de tu nonno. Poi non mi ricordo come. Però insomma, bella, bellissima. Bella, tra l'altro, dovete sapere che per riuscire a riprodurre quel Mortacci del tuo nonno all'epoca, stiamo parlando del 2008, perché questo disco è stato registrato nel 2000, tra il 2008 e il 2009, uscito nel 2010 ufficialmente. All'epoca non disponevo di un riproduttore di testi elettronici e di un Simone Bizzi. Non, sicuramente non in senso sessuale come invece oggi avviene, e quindi sì, lo so, saperlo così è brutto, Michela, però purtroppo è così, però sessuale. esatto, e quindi mi affidai ad una a un riproduttore che trovai online grazie al collega amico Rocco Tanica, che mi suggerì una piattaforma per riuscire a ottenere quell'effetto. E quindi questo è il risultato del Mortacci del tuo nonno, che io scrissi in inglese cercando di fargli dire Mortacci de tu nonno. Ci ho messo un po', però è stato divertente. Ma la cosa ancora più divertente è l'aneddoto che Mauro voleva raccontare circa il primo live in cui abbiamo cantato la canzone con Ilaria. Eravamo a una casa di recupero dalle dipendenze, praticamente di tutti i generi, e porca miseria, iniziamo a suonare e vediamo che dopo un'ora e mezza trampilano un po' noi ragazzi. Trampilano significa, sapete cosa vuol dire trampilano? Si muovono, non riescono a stare fermi, no? Alla fine abbiamo fatto un concerto tipo di 2 ore, poi parlando con gli assistenti e così dice: noi ragazzi sono appena arrivati e quindi sono abituati a usare stupefacenti, noi gli permettiamo solo di fumare, voi siete riusciti a farli stare fermi 2 ore, che è impossibile, no? Perché dice dopo 30-40 minuti impazziscono, no? E l'aneddoto era questo qua: è Ilaria, è stata ospite quella sera, non è una battuta, il pezzo l'ha sentito una volta sola, l'ha ripetuto live. Vai Ilaria! È stato bellissimo. Percorriamo insieme a Ilaria quella serata. Grande Ilaria! Grazie Michela. Dipendenze da sostanze stupefacenti, ma non solo, anche alcol, sesso e cibo. E infatti a fine concerto c'era da mangiare, c'era per tutti il tiramisù. Venite signore e signori, uomini con dipendenze, uomini senza dipendenze, uomini con dipendenze sommarie, apprestatevi a mangiare a questo buffet tutto preparato da persone con dipendenze. E anche voi siete dipendenti da questi buonissimi dolci. Carie, obesità, e poi la serata è finita così, diciamo. Mi sembra assolutamente giusto, che insomma, voglio dire, è sempre una un modo... serata col botto. Io lo chiederei anche cosa ne pensa del si agita, gli è piaciuto, gli è piaciuta. Ma zitta che poi sveglia pure il capo. Ti è piaciuta più la canzone o il racconto? Si è inceppato il gippone. Lo so, purtroppo ragazzi, si inceppano. E quindi soldi buttati dal vento. Ma che c'entrano i soldi? L'ultima volta che il gibbone ha fatto così, dopo ha fatto un sacco di cacca. È proprio per non spendere soldi che uso un software open source. Il primo stronzo che mi dice: ah, la roba open source è perché bisogna, gli sputo in faccia. Il primo stronzo, lo ripeto perché è importante, insomma. È ottimo perché è open source. Esatto. A me gli open source mi entrano in cantina, li ammazzo con le trappole. Gli open source, cioè sono i sorci che ti aprono la cantina. Escono dalla fogna, ma arrivano nella cantina. Io con la trappola, ta! Esatto. Open source. Vabbè, sono i cacciatori. Nel frattempo suonano. Sono i cacciatori di open source. Suonano, ma c'è la pubblicità ancora. Quindi sì, cazzo, sì, no, la partita non è ancora ripresa. Però comunque c'era un bel trailer. Quindi la gente ha festeggiato il trailer. Mi sembra anche giusto. Esatto. Insomma, per ora. Ma sta canzone della Carrà l'hanno fatta sentire. No, perché non lo sappiamo. Ma non è che si è sentita allo stadio come celebrazione, l'hanno messa durante il riscaldamento, così dovrebbe essere. Sì, esatto, dovrebbe essere esattamente in questo modo qui. Però va bene, in realtà, cioè, insomma, sto cercando di seguire quello che dicono in chat, ma non mi è chiaro, non capisco, sono troppo stupido per queste cose. E vabbè, dai, ragazzi. Ha perso la pezza. Leo si è pentito. Secondo me se adesso lo richiami perché ha perso la verza della vita. Sì. E io ti chiamo e tu ti dico sei su Ra, ti sto anche dando il suggerimento. Sei pure di Ra. Cioè, Arturino, esatto. Mazzai che deve comprare cose. Quindi non so. Deve comprare un biglietto andata e ritorno per la Martinica. E che costa 404 euro. Ma scusa, spendi 202, vacci, goditela, che torni a fare. Tanto il mondo occidentale è brutto. Ok, va bene. Non so, sto cercando di fare una selezione per capire. E se nel frattempo è arrivato Santa, il nostro Sant'Agostino. Sì. Che ci dà 4 armi letali al barda spaziale. Pugno atomico, raggio protonico e lo sai benissimo. Una donna che dice lo sai benissimo. Questa rubrica è gentilmente offerta da OGM, racconta un meme. Che è una cosa che in radio facciamo spesso. Ma Leo ci tiene a precisare che lui si è emozionato. E quindi la cosa, se si è emozionato, è come quando a me mi viene l'ictus. Il tenerone. Ma che fine ha fatto Pippo Pippo Pippo? È ancora ha vivo? Smesso di pippà. È morto. Sì, io penso morto. Che siamo un po'. No, Gianfranco D'Angelo è ancora dei nostri. Ma davvero? Ancora davvero? Sì. Almeno. No, non so. Controllo. Io non era morto, scusa. Damo che è morto. E vabbè, che e damo che è morto. Bene, Marco, che dici? Stiamo aspettando che inizia la partita. 84 anni è vivo, così lo volevo dire. Ah, 84 anni, 84 anni, raga, beata chi c'ha un occhio, insomma. Asfidanken. Poi dipende pure di Asfidanken, che poi dipende pure come ci arrivi, perché magari, che ne so, meglio arrivare a 75 in buona forma. Certo, se vedi guardi a 46, dici forse. Ma sarà un casino. Ma sì, esatto. Sì, guardi, secondo me, che gli veniva le ernie già quando c'aveva 30 anni. Ah, che dolore. Pensavano ci avrà, che ne so, 60 anni. Eppure potrebbe essere uguale. Un'anteprima di come sarà Gualdi d'anziano ce l'abbiamo, vero, esatto, Gualdi? Esatto. No. Insomma, quando ti prodighi, di la verità, insomma, ti impegni, è un'auto-ispirazione. Ti prodighi. Vai a vedere i cantieri apposta per prepararti. Infatti, non perché li devo vendere. O quando ti prodigi anche. Sì, ti posso dire che io ce l'ho l'anteprima di come sarà Marco Gualdi da grande. Dai, entra il padre di Marco Gualdi in ufficio. Ah, è vero. Dopo grandi fatiche, tu tutta soddisfatta dici, guarda che bello ufficio che c'ho. Stai mettendo le plafoniere, quindi stai facendo gli ultimi lavori, ti guarda e ti dice, ancora state così? C'ha ragione. Lo so, c'ha pure ragione. La vecchiaia c'ha ragione, Marco, da qualcuno dove aveva più preso. Ma io... C'ha ragione, assolutamente, sono d'accordo con lui. Che poi, tra l'altro, c'era una canzone proprio che parlava di Marco Gualdi, che però poi Marco Gualdi stesso ha bloccato facendo minacce praticamente legali. Però noi ce l'abbiamo. Perché non era troppo legale. Era troppo bello, ho detto, imbruttitela un pochino, vi prego. Quindi andiamo su. Io sono Marco. Io sono Gualdi. Io non invecchio. Ascolto musica rock. E resto giovane. Venga al disco non ce l'ho. Anche se mi piace ascoltare il long plan. L'ernia inguinale non ce l'ho. L'ernia iatale non ce l'ho. Perché sono giovane. Giovane. Ascolto rock. Ascolto pop. Ascolto snips. Ascolto tutti i generi che mi aggradano. Perché sono giovane. e ascolto musica giovane. Quando sto in ufficio sono molto elegante e ascolto musica elegante. Mi preservo dagli acciacchi del tempo. Sto attento alle correnti d'aria. Quando mi doccio mi asciugo bene, specialmente i capelli. E sto attento a non far tardi la sera, perché riposare mi fa stare giovane. Giovane dentro, giovane fuori, giovane. Sono Marco Gualdi. Sono Marco Gualdi. Marco Gualdi. Sono Marco Gualdi. Un nome? Gualdi. Una garanzia. Sono Marco Gualdi. Gualdi. Gualdi. Mi piace il rock and roll. Rock'n'roll! Potrebbe partire la scimmia adesso. O Richard Benson. Richard Benson. Non partirà la scimmia. Mi spiace, la scimmia fino alla fine del risultato è inutile che la facciamo partire. Ma Marco Gualdi, ti riconosci in questo... Certo, per forza. Sei tu, soprattutto quando vai in ufficio. Assolutamente io, sì, sì. In ufficio. Posso dire che io ho qualche perplessità, perché da quando conosco Gualdi non l'ho mai visto ascoltare musica. Io sì. No, io sì. Tu non io mi puoi confermo. Vedere ascoltare, se poi puoi sentire mentre non sento musica. Confermo di aver partecipato a diversi concerti con Marco. Però lui sempre in piedi. Lui sempre in piedi, piedi. Noi seduti a terra, ma lui in piedi. In piedi. In piedi. Sì, sì, Marco Gualdi si immagina comunque, scusate, non si guarda, non si ascolta, ma si immagina. Si deve immaginare. perché sto fal... fiume vuoto ed immaginare. Non capiamo la citazione, però. Non era proprio così, era Verdone. Ah. Va bene, va allora bene. Andiamo avanti. Ascoltiamo il gibbone, che è meglio. No, gibbone, ragazzi, no. Secondo me sto gibbone ci ha preso il culo a tutti, voleva solo fare la cacca. No, in realtà Gibbone adesso sta all'altra stanza, che non è microfonata. Ci ritorneremo solo poi a sentenza, insomma, che... Sì, sì, ma tempo cercare, che è proprio morto. Ma è morto in un modo brutto, poi anche un po'. Secondo me. Cioè, morto... Dove l'hai portata a fare la passeggiata? No, ma vabbè. Al centro sociale, è una storia. Centro sociale occupato. Nato. No, gli ormoni che gli creano questi alti e bassi. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo e l'Italia. Ma Sbirulino fuori. È quasi anche finito. Vicino all'angolo. Chi è Sbirulino? È uno Spolverino vicino all'angolo. Cos'è? Spiega. Non lo so. Forse è un microfono, cazzo. È un microfono. Ma non se serve pure il cazzo. Era un gatto morto sul microfono. Un microfono per sentire cosa. L'hanno impalato. Gatto morto. Esatto. Insomma, quindi. Per sentire le puzzette degli atleti. Ma io volevo chiedere alle stupide creature, ma il signore quello dell'altra volta, il signor Pier Gigi, lei come si chiamava, non c'è questa sera? No, l'hanno ricoverato per una trombosi. No, povero. Questa ci sta. Gli è venuta mentre trombava con la moglie, è stata una cosa strana. Strana, una esatto. Trombosi proprio alle parti intime ha avuto. Pensa se andava a cena con Embolo. Una trombosi alle parti intime deve essere una cosa terrificante, immagino. Come ci potrebbe raccontare Francesco, insomma. Non per la moglie, mi hanno detto. No, è vero, esatto. Francesco, tu invece che ci dici? Che documentazione hai? Tra l'altro ci siamo documentati sulla Spagna, c'è qualche particolarità della Spagna, Gualdi? Marco, dici un po'. No, la Spagna non c'è un cazzo. Non c'è, la fa Francesco, allora Francesco, secondo me. Come la Belgio. Spagna è una, innanzitutto, vabbè, fa parte dell'Europa. Per un pezzo, perché è giusto attaccata per una punta, se no era un'isola che andava i cazzi su. Potrebbe tornarlo, insomma. Che tra l'altro, cioè, purtroppo c'ha stonta di essere, cioè, quel pezzo che ha lega all'Europa e qua a Francia. Vabbè. Ci sarebbero i Paesi Baschi, se non dove farebbero bene, solo per la Spagna sarebbe ancora peggio, cioè dividersi ai Paesi Baschi e avere dei Paesi Baschi come confine, quindi... il male minore è la Francia. E comunque è tipo, c'ha tipo pure i deserti, so, infatti ci giravano gli spaghetti western. po' se mangia la paella, alcune parti no, alcune parti sì, dipende se è, di, se è una parte più di mare, più di terra. La corrida. Più di mare e di terra. La corrida, poracci, cioè, soprattutto quando c'è quella specie di corrida là, che lasciano i tori liberi e fanno incornare la gente e poi dicono: mannaggia, è morta la gente, che peccato, vabbè. Ma come mai, soprattutto, come mai? Ma come mai è successo, mannaggia? La corrida! Poi nessuno conosce l'etimologia della parola! Corrida, corrida, ida. Ida era una bambina dispettosa e il padre gli emenava, e tutti i vicini quando vedevano il padre furente gridavano: corrida, corrida, corrida. E da lì nacque quella che noi tutt'oggi conosciamo come corrida, uno spettacolo antico dove il toro è un re, ma le volte muore e si mangiano le scones del toro. Se sei fortunato e se sei in giornata no, dovrai accontentarti del coglionito del torero. Questo piatto tipico, il coglones. Lo scoglione c'è sempre. Gualdi, mi pare che la Spagna quasi quasi segna. Quasi quasi no, Gualdi, scusa, volevo dire Sbano. Ma in realtà, scusa, in realtà l'azione è stata confusa perché ci sono stati anche un paio di falli che hanno portato poi anche a un cartellino giallo da parte dell'arbitro per Basquiat. Quindi di conseguenza, no, Basquiat era il protagonista del libro. Basquiat. Beh, d'altronde abbiamo anche degli esperti di etimologia. Tra l'altro, Francesco, io direi che si tira così a tradimento. Che questa l'etimologia di corrida, mi penso sia anche abbastanza credibile, verosimile, tutto sommato, no? Sì, sì, corri da, cioè scappi da una parte, quindi c'è sta, corri da sto toro di merda. Poracchio. Però per esempio in Spagna, per dirvi, per dirci, c'è una legislazione che proibisca la gente di andare in giro nuda. Addirittura, interessante questa cosa. C'è o non c'è? Non ho capito. Non c'è, non c'è. Perché in Italia c'è? Sì, beh sì. No, non lo sapevo. In teoria non puoi andare neanche a petto nudo in Italia, in teoria. Neanche... soprattutto se sei donna, però vabbè, comunque. Attenzione, contropiedone, ragazzi, vabbè, attenzione. Ma che tanto la nostra macchina del tempo facciamo, ci dice che non ci dobbiamo illudere, però... Niente, niente. No, però diciamo che la Spagna ha fatto un bellissimo tiro in porta. E quindi ti importa. Ci abbiamo provato, ci proviamo sempre, insomma. Perché il trucco è fare dei tiri angolari, che abbiamo capito che questa edizione è buggata, hanno i portieri buggati sui tiri angolari. Torniamo al noi ci proviamo sempre, che anche Simone Vailati ci provava sempre. Poi non ho mai saputo, a dire il vero, perché le cronache non lo riportano. Sì. Quali erano i risultati? Prego. Sì. Prego. Ma il portiere quando gioca dopo le 22 è il portiere di notte. Esattamente, esattamente. Esattamente. Simone Vailati voleva commentare qualcosa, perché ho visto che ha fatto una faccia strana. Volevo commentare la Spagna. Prego. Questa squadra che sta dando anima. Questa squadra che è corpo. E soprattutto questo corpo che noi vediamo è un corpo sinuoso, adagiato nel mare. Caliente, adriatico, muy caliente. Adriatico. Molto adriatico. E abbraccia quest'altro corpo che è il corpo del Portogallo. E si uniscono in un turbinio di amore, passione e anima. Orgia! Orgia, sì, c'è anche quella, soprattutto orgia. Niente, volevo dire questo. Grazie. Simone parla così perché la sua donna è messicana. Bravo! Ma è vero? E dunque per metà spagnolo. Esatto. Beh, che vuol dire? Allora io so per metà greco-romano, cioè... Esatto. Cioè, la logica è proprio questa, non fa una grinza. È quello, Bravo, Simone. Perché la Spagna, ha esportato... Grande, ha esportato i sudamericani. In Sud America ha esportato lo spagnolo. Hai ragione. Tutto fiorire i sudamericani, sì, infatti. Anche il Portogallo, non ci dimentichiamo. Bravi. Francesco, allora continua la tua disserzione, arrivo subito. Sì, sì, dissertando ci sono due o tre città in Spagna, c'è Madrid, Valencia e Barcellona, però... Quella è Catalogna, cioè, attenzione. Brutto, che... se gli dico che sono spagnoli si incazzano, perché, no, giustamente dipendono dalla loro provenienza, che sono... Vabbè, basta non dirglielo, insomma, catalano, come la crema. E Barcellona è una città dove ci si fa la gente come una mina, è una specie di fino a poco tempo fa era una specie di Amsterdam da Spagna, però no, più economica, e chi ne ha bisogno da Barcellona. Diciamo, Francesco, che stai subendo l'effetto Vargas. Sì, insomma, non so in che modo e perché, però va bene. Dai. Ma proprio la sua voce. Quello è l'effetto Vasco. Invece. L'effetto Vasco. Il cane abbaia. Intanto va bene. Allora, ragazzi, io direi a questo punto che possiamo un attimo cercare di capire se ci sono le condizioni per poter sostituire Michela. Adesso si è alzato il cartellone con il numero di Michela, ma al posto di Michela purtroppo non c'è nessuno, quindi possiamo esperle. Però se vuoi, Sbano, dato che il microfono funziona meglio, ti puoi mettere al posto di Michela. Michela, ma in realtà non può sentirvi perché non può sentirvi perché se n'è andato. Ha deciso che, insomma, ma no. Posso anche capirla, perché questa partita proprio non dà emozioni, quindi... No, diciamo che è una partita tirata, tesa, come giustamente potrebbe essere una semifinale, perché per esempio, Mauro, se tu ti trovassi a giocare una semifinale importante per la tua carriera, come ti comporteresti? Starei in panchina, sinceramente, cioè, non ho voglia di... Ma io sai che, come Michela, sai che, esatto, atteggiamento diffuso vedi in campo? L'atteggiamento di 22 persone che dicono: che palle, se vinciamo ce ne tocca un'altra, e non li vedo molto motivati. Tanto la paga penso che più o meno lo stessa, no? Cioè non è che cambia tanto. Beh sì, diciamo che in nazionale non è che c'hanno un... Stiamo intorno ai 200.000 euro a calciatore, però credo che ci sia un premio per l'eventuale vittoria. A calcio. Subito o dato poi? Dato, perché una cosa, se lo subisci poi in realtà dopo vieni risarcito dall'assicurazione, ma è diverso quello. Invece se tu dai calci agli altri, i calci insomma amplificano il tuo potere d'acquisto. Tra l'altro oggi leggevamo proprio di Spinazzola che verrà, gli stipendi che la Roma deve a Spinazzola nei prossimi mesi verranno pagati dalla FIFA, perché in pratica hanno una sorta di assicurazione, giusto, Simone? Esatto. Infatti non è la FIFA che li paga. No, è però diciamo che l'entità deputata a corrispondere questi abbonamenti è la FIFA, poi lo fa attraverso un'assicurazione, però... Bene, allora io a questo punto, dato che insomma questa partita è un po' all'angolo, noi ci aspettavamo insomma di sentire gente che strillava, sai, tutta quella parte... Scusa, con tutta la merda che c'è sulla parete, mi aspettavo qualcosa di più. Esatto, infatti sta scimmia secondo me... Ma c'ho paura dei cosi, dei supplementari. Io spero solo che non siano rigori, perché... Vabbè, 3-2 rigori sono. Io proverei a far rivincere un cavolo verza, vediamo un attimo se questa cosa può funzionare. Sì. Allora, fa schiuma ma non è sapone. La borra. Bravo! Lei ha vinto un cavolo verza alla fine. Grande, veramente. Aspetta, attenzione. Rimanga in linea. Ci sono. Cose. Palla della Spagna con i due centrali che impostano in attesa che si apra lo spazio giusto. Eccolo, la porta. Dani Olmo va a terra, ancora Dani Olmo. Tackle di Verratti. Pallone allargato pericolosamente per Jordi Alba. Massa, ma quanto stiamo in ritardo? Cerchiamo di capire, perché adesso. Attenzione, Donnarumma. No, ci conferma Schuren. Donnarumma rilanciato. Siamo al centrocampo contropiede. Attenzione. Questa è roba seria. Attenzione, mi pare Chiesa. Swat e gol. Enrico. Giovannino Chiesa. Insomma, ancora una volta interviene il Vaticano. Ha fatto il miracolo. Italia 1, Spagna. Ripartenza improvvisa. Bene, bene. Allora, questo nostro concorrente qui oggi, cioè, insomma, doppia fortuna, ha vinto il cavolo Verza, anche se al secondo tentativo, diciamoci la verità, però questo non lo diciamo a nessuno. Ha vinto il cavolo Verza, ma anche c'è stato il gol dell'Italia, insomma, quindi... ci ha portato bene, direi. Teniamolo, richiamiamolo più tardi. Sì, esatto, magari. Se vuole la richiamiamo, oppure sta pomiciando. Abbiamo dato della borra alla Spagna. Forse è stato quello, sa che però ha funzionato. Guardi, guardi, signor ospite, lei non lo sa, ma abbiamo dovuto purtroppo celebrare il decesso della signora Borra. Ne abbiamo parlato anche in diretta ieri sera, perché è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari qui a Monterotondo settimana scorsa la signora Borra. Esatto, ma questo soltanto se scaricate e ascoltate OGM, esatto. Perché insomma... Grazie comunque, ci sentiamo più tardi semmai. Suzuki Solution. Prego, prego, ci mancherebbe. Arrivederci, arrivederci. Guardi, togli lo sponsor. Arrivederci. Guardi, togli lo sponsor. Puoi decidere se tenerla. Niente, che è successo? Si toglie, no, si che è successo, Gualdi? Gualdi spippiola. Hai combinato, Gualdi? Non fa partire le comunque, cose. Ragazzi, io direi che per un discorso, secondo me, che dovrebbe essere ragionevole per tutti, chiudiamola qui. Eh sì, è vero, secondo me ci dovrebbe essere infierire. Un regolamento che a un certo punto uno dice, senti... Dai, chi te lo fa fa? Esatto. Bravo, comunque sto cazzo di chiesa che a me sta molto... Devo riavviare la partita qui perché mi si era anche un attimo inceppato. Ok. Ci sarà tanto rumore. Questo... Deve essere perché gioca in quella squadra lì. Un questo po' chiesa che... No, no, no, pure quando giocavano alla Fiorentina mi è sempre stato... Gualdi, Gualdi. Devi togliere l'audio, non Gualdi. Non so come toglierlo, porca puttana. Ecco, ok, bravo, bravo. Importante insomma che capire che queste cose poi alla fine danno fastidio al pubblico. E niente, siamo al 61esimo, quindi ha voglia ancora, diciamoci la verità. Insomma, ma adesso però... un bel catenaccio di quelli di una volta, no? Esatto. Oh, Gualdi, hai rotto il cazzo comunque, scusa. Ho non capito, volevo... ma non trovo l'audio qui, crispio. Ok, allora aspetta. Sta facendo? No. Devi sbattere, guarda, è una storia complicata. Fino a quando si spacca, non c'è l'audio. Esatto. L'audio, ci sei riuscito? No, non ci sei riuscito. Quindi, no, ascolto l'audio non, perché non trovo il casino dell'audio. Non c'è. Prima l'abbiamo trovato, ma dopo la pubblicità. Forse, non, allora, facciamo... forse non guardi bene. Forse non Gualdi bene, esattamente, esatto. Allora io direi a questo punto mettiamo un brano. Perché Gualdi e non Favelli? Così risolviamo il problema di Marco Gualdi. Facciamo così, ah, lo dobbiamo abbattere? Eh sì, esatto, lo risolviamo un attimo. Ci ascoltiamo questa canzone che si chiama Dizzy, giusto, caro Sueso? Canzone commercialona delle stupide creature. Bravo, bravo. Che poi ogni tanto ci vuole, no? Quella che ha soldi. Esatto, abbiamo... uso la storia di questo tastierista dei Guns N' Roses con la musica italiana dei Pooh. Bene, ce l'ascoltiamo. Ora sono qui davanti a tanta gente e mi chiedo perché nessuno caga a me. Ora sono qui, ma non è divertente con le mie tastiere. Mi sento inutile. Io credevo che stando in una band avrei chiamato addirittura per osmosi con i Guns N' Roses. Cosa avrà mai Slash più di me? Sarà forse il cappello o la chitarra sul pisello. Cosa avrà mai Axl Rose più di me? La bandana con me col bacco o forse il finto pacco. Io che almeno so suonare, non lo posso neanche dimostrare. L'unico pezzo con il pianoforte lo suona Axl Rose. Usa solo i tasti bianchi perché i neri gli sta sui coglioni. Con quell'intro di November Rain sbriciola le belle fighe. Adesso credo che in una grande band con tasti bianchi si può diventare. l'utilità della doppia cassa nella musica dei Pooh? Cioè, non lo so, cioè, secondo me nei Pooh probabilmente farà, non lo so, per appoggiarsi. Cioè, per, non so, magari per appoggiarci, cioè star seduto e non ah, so. Per la posa dici? Forse, credo. Oppure, non lo so, perché, boh, non lo so, boh, potrebbe, magari c'è, non la sentiamo. Magari la suona così veloce, magari la suona così bene, così veloce che non la sentiamo. Dici che crea un bordone sotto. Può essere che sia, ecco, forse crea un bordone, cioè, o può essere che tipo il batterista di Def Leppard, che non ha un braccio e ha imparato a suonare con una batteria azionata da dei macchinari, delle leve, insomma, senza un braccio. Può essere che lui magari abbia sviluppato una tecnica per la quale quello che noi sentiamo a volte è fatto con la doppia cassa e non sembra. Cioè, magari c'è tipo, ah, cioè, ti dici tipo c'è un colpo di piatto. C'è un colpo di piatto, magari lui l'ha fatto con la cassa. Cioè, magari quindi lui ha un, non lo so. Bene, bene, ragazzi. Quindi, vabbè, ci siamo. Ritorniamo, insomma, grazie alle stupide creature. E la Spagna spinge, ragazzi. Un po' spinge. Tra l'altro, dice se lo spinge adesso. Insomma, però in chat, giustamente, Shuren, oh, finalmente hanno iniziato a giocare. Sì, perché ovviamente adesso la Spagna non può tergiversare. Però l'Italia di conseguenza stava pressando l'avversario, quindi forse adesso un pochino ci divertiamo. Ok. In questi 22 minuti più recupero, magari un po' di calcio lo vediamo. E se chiediamo alle stupide creature cosa significa un po' pressare, ad esempio? È un termine osé che non possiamo utilizzare in radio. Cioè? Quindi ci asteniamo per politica corretta, aziendale, cioè, vorrei aziendale, politica aziendale, sì. Politica aziendale, quindi non può pressare lei. Fioccano denunce come niente fosse, come dicevano quelli che sanno anche. Olmo ha fatto un bel falletto su Chiesa, però insomma. Olmo, io ci stava uno, no, non si può dire falletto, eh. Ci stava uno che vendeva le biciclette. Olmo era un po' di cantante, shaming, falletto è dispregiativo. Sempre tua. Quello lì era Olmo. Sì, esatto. Ah, forse lui. Sì. E io Olmo, c'era uno che vendeva le biciclette a... No, Olmo è una marca di biciclette. Ah, ecco, vedi. Che io Olmo, pianfora, gli dicevano da fuori. Non so perché. Il marchigiano poi in questa cosa. Questo non lo so. Questo al centro di Roma, sono cose strane, perché poi alla fine... Ah, non ti credere. La Roma è uno di quei posti dove senti parlare ogni lingua tranne il romano a volte. È come Monterotondo, se ci pensi. Monterotondo il romano non sa manco che cos'è. No, però nel senso che abbiamo il quartiere abruzzese, il quartiere siciliano, come abbiamo Chinatown, insomma, come le grandi metropoli. Ok, quindi un popurrì multiculturale. Anche Bucharest Town abbiamo. No, quello è troppo paro. No, ce l'abbiamo pure qua. Esatto. E se invece lì sul lago di Como ci sono i ghetti come da noi? I laghetti? Giusto, giusto. Bravissimo. Certo, certo, assolutamente. Siamo cresciuti con quella cosa lì con noi. Cioè il business comasco in realtà è quello. Cioè non è la seta come molti credono. E invece... è quella cosa lì. A proposito di lago di Como, io ricordo sempre di avere un cliente di Bellano, che sembra una battuta, ma è la verità. Ma è una parolaccia. Sì. E beh, d'altronde abbiamo sentito la cosa la scorsa settimana, il calcio amatoriale, no? C'era Belluno contro Bellano, se non sbaglio, no? Giusto? Bravissimo, esatto. Sono sempre informatissimo. Allora, ragazzi, mi consulto con voi, ditemi se siete d'accordo. Proviamo per questa sera a regalare l'ultimo cavolo verza. Vai. Vogliamo provarci, proviamo. Certo, che dite? Che dite, siamo ragazzi? Siamo così pieni di cavoli verzi. Sì, vediamo, dai, vediamo un po' se questa potrebbe andare anche bene, ho questa sensazione positiva. Vediamo, insomma, se riusciamo a vincere questo cavolo verza. Sta squillando, quindi è una cosa. Pronto? Lei è su Time. Bravissimo, bravissimo. Che emozione, che cosa emozionante dentro di noi. Lei aveva bisogno di questo cavolo verza, vero? Mitico, sicuramente. Ma che cosa ci farà con... Come lo cucina? Esatto, cosa ci farà con... Ma chi ti ha detto che se lo mangia? Uno esatto, solo. Esatto. No, uno solo, però effettivamente non lo cucino. Infatti, di solito devono essere almeno due, giusto? Lei mi insegna. Certo, quei cavoli sono belli sostanziosi, per cui... lei mi insegna, va bene. Caro Michele, mi ha fatto piacere averle dato questo momento di gioia. Senti, ti battono le mani intanto le stupide creature. Ho sentito. Bene, buona partita. Buona serata e grazie. Ciao Michele. Ciao. Michele. Da non confondere con Michele l'intenditore. Ecco, è diventato un film porno. Scusa, è stata la puntata 16 di Lost improvvisamente. C'è sempre. Ma la raccontiamo questa cosa della puntata 16 di Lost? C'era il periodo. Sì, quando sarà la 24esima volta che la raccontiamo. Ma sì, no, però qui magari non l'abbiamo mai raccontata. No, perché esatto, noi lo dobbiamo raccontare su tutte le nostre trasmissioni. Quindi è una tradizione, dobbiamo per forza raccontare. Il periodo della famosa sesta stagione di Lost. Quella che era introvabile in Italia. Che tra la. Ma il cofanetto! No, c'era. La sesta c'era. La sesta stagione. Cercavo di trovarla meglio. Però mi ricordo che la sesta stagione, a dispetto delle altre che duravano 24 episodi, quella ne durava tipo 12. Perché c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori. No, perché era una merda. Vabbè, no, in realtà sì, però merda, è perché insomma. C'era stato lo sciopero degli sceneggiatori. Comunque, alla fine, che era successo? Era successo che io avevo trovato sta puntata 16 di Lost. Però le puntate erano 13. E quindi c'era, e noi dicevamo, ma forse l'hanno sbagliati a numerarla, no? E quindi niente, abbiamo provato a vedere, pure con Michela era interessata perché lei voleva vedere Lost, insomma, voleva andare avanti, ero bel genere, e mettiamo sta 16ª puntata di Lost. Non cioè, c'era molto montazione, molto movimento. No, diciamo che inizia in un modo in cui un po' il sospetto ti ma viene. Ma quando avete letto regia di Gio D'Amato? No, non c'era scritto ancora niente, inizia praticamente con una tipa dietro un vetro, hai visto quei vetri tutti zigrinati, che non si, cioè, sì. Tu lo capisci che è nuda. Però è tutto zigrinato, quindi alla fine poteva anche starci una scena iniziale di un episodio di Lost, esatto, insomma, quindi alla fine intanto c'è una... abbiamo riperso lo streaming Rai, quindi nel caso ragazzi fateci sapere dopo lo Skype. Abbiamo perso anche Skype, molto bene. Bene, questo mi preoccupa perché evidentemente è caduto proprio tutto. Allora, pronto? No. Partecipa. Devo intanto amici in chat, se ci state ascoltando diteci qualcosa sul siamo gruppo. Siamo rientrati. Okay. Però io vedo che anche ragazzi è caduto anche Telegram, non siamo online. Non siamo online. Cioè o perlomeno non lo siamo stati per un po'. Allora, io sono online. Vodafone Power Station, bene. Io sono online ma voi non siete online e questa cosa è brutta. Vodafone storia. Power Station dice nessuna connessione a internet. Internet assente, benissimo, sì, benissimo. Sì, vabbè, noi continuiamo. È che solo io? Scusate ragazzi, abbiate pazienza, però siccome noi stiamo preparando il podcast, noi continuiamo indefessi. Infatti siamo offline, vabbè ragazzi. Sì, provaci, intanto noi andiamo avanti con la trasmissione, visto che la stiamo comunque registrando e... proviamo a informare uscendo. Ma guarda, potrebbe esserci una sorta di guerra mondiale, non ce l'hanno detto, perché nel frattempo la mia connessione dati è andata in edge. Quindi proprio la morte del 3-4. Diciamo che tutti a guardare le partite, tra l'altro non sapremo mai che succede. Insomma, questo è un po'. Infatti, possiamo chiedere a Michela se accende la TV di là, magari. E la mette a tutta gallare, come si dice. Cioè, una chiamata in arrivo da non so chi, cioè, quella è la cosa bella. Cioè. Provo a ripartire dalla chiamata, vediamo se riesco a. No, il bello è che nel frattempo il router di Fasto mi sta dando i log da solo. Bene, tutto molto tutto bello. Molto... Ma infatti, forse Michela ha riavviato il router? Chi può dirlo? Beh, non credo che sarebbe stata così veloce, insomma. Mi sembra un po'... No, ma sì. Ragazzi, la cosa bella è che anche la connessione dati mi sta dando un sacco di problemi con due operatori diversi. Quindi io non lo so, secondo me è morto internet in senso assoluto. Qualcosa deve essere successo. È un sabotaggio degli spagnoli. Diciamo niente, ecco. Non l'hanno presa bene e quindi il... Internet comunque è andato, quindi adesso non so chi ci sente, come ci sente, stiamo facendo le cose per il conto nostro, immagino, no? Sì, assolutamente sì, cioè non siamo minimamente in... Noi continuiamo a guardare la partita... In linea, adesso bella vediamo azione un attimo da Spagna, bella azione di Spagna. No, ragazzi, io mi sto veramente preoccupando perché sono... Ecco, in questo momento non abbiamo proprio più... Due operatori di rete mobile in contemporanea, giusto? C'è stata la seconda guerra mondiale, adesso sentiamo se è Como... Simone Pizzi, allora. Simone Pizzi. Io non so se voi avete internet, ma noi non abbiamo più internet, quindi stiamo comunque continuando a registrare la trasmissione, ma nessuno ci sta ascoltando, chiaramente. Ah, incredibile. Allora, proseguiamo dal guida? In realtà no, perché loro su Skype non ci sono. Cioè tu adesso cioè noi non possiamo fare niente in questo momento, non abbiamo assolutamente nessun tipo di linea dati, quindi al momento siamo su Skype noi e Francesco. Esatto, quindi di a Francesco che insomma noi non possiamo collegarci, e quindi l'unico collegamento che possiamo fare è questo per telefono. E tu stai registrando? Sì, sto registrando, ma ovviamente la puntata così, cioè non c'ha senso, insomma. Non possiamo, vedere manco la partita, niente, cioè esploso tutto. Tra l'altro tutte le linee cellulari, anche altri operatori, sono tutti senza, quindi secondo me deve essere esplosa una bomba qui a Roma da qualche parte. Io adesso il segnale ce l'ho. È una spy ops questa. Esatto, bravo, esatto, infatti. E non sappiamo neanche cosa succede durante la partita, perché non siamo ciechi e sordi e bui. In realtà Michele ha acceso la TV sulla Rai di là. No, non ci abbiamo, non c'è internet, niente, non disponibile. Niente, c'è Vodafone, attenzione. Chiesa sta facendo una rimessa laterale. Siamo, e siamo tornati. Dici, fai la cronaca, vai. Vai, ci piace questa cosa. Allora, la telecronaca in questo momento prevede una palla rotonda che dall'Italia sta proseguendo nella direzione d'attacco. E vediamo che il numero 11 lascia il pallone al numero 7, poi al numero 21, poi ritorna di nuovo indietro. Bonucci lascia il pallone all'indietro. La Spagna cerca di intersecare Cuiarsi a metà campo, ma l'Italia riesce comunque a soprassedere. Simone Valdati, cosa ne pensi? Palla alta, la palla alta è fondamentale in questo gioco. Bisogna giocare di rimessa. Di rimessa vuol dire palla alta, non dismettere la palla, cioè bisogna rimettere sulla palla. Vediamo il guardalinea che si inchina. Sì, sta pulendo il vomito. La rimessa, sempre che dici la palla sulla palla, c'è una bella differenza, Mauro. La Spagna sta cercando di trovare uno spiraglio, ma continua a passare all'indietro. Adesso addirittura il pallone è arrivato nei pressi del portiere, che, esatto, come dice Simone, è un salmone. Cercano di riorganizzarsi, ma siamo ancora nella metà campo spagnola. Adesso il pallone seguita a rotolare nella direzione della metà campo. Ecco, siamo nella metà campo italiano, ma non hanno mostrato il passaporto gli spagnoli, sono retrocessi subito nella loro metà campo. Si pare che tra l'altro il portiere sia privo di green pass. Adesso il pallone è adesso la difesa spagnola è un pochino sotto pressione a causa dell'avvento degli italiani. Attenzione, pallone in centro area, attenzione, tiro, parata del portiere spagnolo. Tiro molto mosso. Ti avviso che la Spagna ha pareggiato comunque, così. Ah, lo sapete già prima? Sì, perché alla fine abbiamo acceso la televisione, quella più tradizionale del mondo praticamente. Fina del tempo, però potresti anche condividerla con gli amici. Noi ho fatto una cazzata l'altro giorno. Ragazzi, comunque io credo sia un complotto. Scusate se entro a gamba tesa, ma deve essere un complotto. Ci hanno tolto internet per pareggiare. È vero, qualcosa non torna. Secondo me c'è anche un colpo di stato in questo momento, non lo sapremo mai perché. Ma quello ci potrebbe essere d'aiuto, nel senso che potrebbe essere un vantaggio, mettiamola così. E quindi la Spagna ha pareggiato. Che amarezza viverla così. Ma quanto manca? Guarda, vado a vedere, credo che dovremmo stare intorno al 75. Mi sa che Peppone aveva ragione, tutta quella caccamuro, eh? Voglia merda ancora. Grande Peppone, vince sempre, insomma. La linea funziona. No. Al momento c'è sempre un giocatore spagnolo investito da una persona con la giacca e la cravatta, però il gol della Spagna possiamo dire che è gol in cui Donnarumma purtroppo si è spiazzato. Ah, ok, ma è irregolare, non è che viene annullato dal VAR, no? No, sembra regolare, sentiamo il VAR. Tutto regolare. Il grande VAR che è tornato, insomma, ci fa sempre piacere, eh? Anzi no, piacere non tanto, però insomma un po' piacere, diciamo. Maledetti umani, sì, esatto. Bene, va bene. Io in questo momento devo dire la verità, per la prima volta dopo tanti anni non so cosa fare, perché non se ne sono andati tutti prima di tutto. Cioè, no, ma ragazzi, io veramente sono assolutamente perplesso dalla situazione tecnica, perché la rete fissa non torna, la rete mobile è stranissimo, perché io ho due SIM diverse sul cellulare, una di Iliad e una di Vodafone, quella che seleziono per la connessione dati cade. Allora, l'unica cosa che posso dire è che deve essere proprio una roba della vostra zona, perché qua al momento che la connessione salta anche quando deve andare dritta, funziona. Sì, ma sicuramente sarà un problema di zona, però. Bene, bene, avete avvisato Francesco. Francesco è qui con noi, soltanto che lo sentiamo per metà. Aspetta, vediamo se riusciamo a farti parlare con lui, ma aspetta, Vediamo, vediamo. Vediamo. Non so se vi sentite, provate a parlarvi. Francesco! Più o meno, molto più o meno, insomma. Sai che è successo un'ecatombe. Vabbè, lo sento troppo a malapena. No, non ce l'ho facciamo. Anzi, non lo sento proprio. Vabbè, dai ragazzi, io direi che se ci avessimo un brano musicale, metteremo un brano musicale. Ma così ne metto uno a caso di quelli nostri. Va bene, metti quello che vuoi. Ma tu in questo momento riesci a trasmettere lo stesso? Eh no, non sto trasmettendo, giustamente, quindi così, siamo così, cioè, siamo giusto perché stiamo registrando e stiamo andando avanti, se no magari nella speranza che ritorna e fare il finale di trasmissione, se no la chiudiamo qua, insomma. Io non... Se vuoi ti registriamo una canzone in questo momento. Al volo. La canzone al volo. Dai, vai, prova a registrare la canzone al volo, che per telefono non so quanto sia bello, ma insomma... Proviamo, vediamo cosa succede. Fantastico. Sì. Io non sento niente. Ma la canzone di Francesco, dopo Simone deve postarla perché è bellissima. Quando eravamo connessi solo noi. Un testo impegnatissimo. Certo. Esatto. Una poesia, insomma. Sì, ne esce uno su ogni tanto. Ma in effetti ci fa la bimba. Tecnologia, perché sei andata via? Sei invadente, ma quando servi se non ci sei, che si fa? Si improvvisa di brutto. Di molto brutto. Perché senza la tecnologia non si può fare più niente al giorno d'oggi. Ma nel Medioevo non era così. No, non era così. Perché nel Medioevo tutto quello che si faceva live. Nella preistoria tutto quello che si faceva live. Ma oggi nel mondo moderno tutto quello che si fa con l'ausilio della tecnologia. Tecnologia ti spia. Anche quando non vuoi, anche quando vai al bagno, mentre guardi Facebook e fai la cacca, la telecamera del tuo iPhone ti sta riprendendo per fare un filmino e per depositarlo in qualche hardware, qualcosa del genere, in modo che nel futuro tutti potranno vedere come fai a guardare Facebook. Come fai a guardare Facebook mentre fai la cacchina? Fai a guardare Facebook mentre fai il bidet. Mentre fai il bidet, mentre fai il bidet. E poi tutti vedono che vai in cucina senza esserti lavato le mani, tagli il pane, apparecchi la tavola, fai l'insalata usando le mani, ti scaccoli e fai tutte le cose più igienicamente scorrette e sono tutte lì riprese dal tuo telefonino. Il tuo telefonino ti aiuta tanto, il tuo telefonino soprattutto per l'igiene. Ti riprende solo con immagini imbarazzanti, telefonino. E poi ti tagga automaticamente. Figure de merda, figura di cacca, figure de merda, figura di cacca. Bene ragazzi, bene, io spero che stiate registrando, così almeno mi mandate la traccia e provo a fare un sync, perché certo sentirvi suonare dal telefono è una cosa che dire che fa schifo è forse qualcosa di... Ma è un effetto che abbiamo usato apposta, che si chiama effetto telefono, che proprio fa lo schifo, e invece è proprio così. E certo, lo immagino, che è assolutamente la connessione, la connessione in comune... Cambia connessione, impostazione, rete. Niente, io non c'ho. Bentornato. Bentornati. La situazione si sta piano piano ripristinando. Quindi sì, sta sul computer mio, però. Non di capisco. Conseguenza, caduta di nuovo. Ha chiuso la connessione col cellulare. Però sì, ci sentiamo tra di noi. Però non stai streamando su BAT. Quindi al momento non abbiamo ancora la live stream. No, perché a meno che qualcuno non mi ha staccato la cosa, l'Ethernet dal computer, io non c'ho. Perché dovresti... Però se vuoi te lo faccio. Ma magari perché, che ne so, muovendoti hai staccato l'Ethernet. Che ne so, guarda. Sì, l'Ethernet sono pericolosi. Comunque, fateli venire a togliere. Perché io sul mio computer non c'ho internet. Quindi... Simone, probabilmente devi provare a disconnettere e riconnettere. È tutto apposta, Michela, è tornata la connessione. Con cosa vi siete connessi adesso? Allora. Vedi? Siete connessi? No, sì, c'ho il cavo Ethernet che era staccato, ma è ovvio che doveva essere così, altrimenti mi ritornava subito. Complotto, vabbè, comunque, fra poco. Come si era staccato? Animali? Sì, no. Sì, vabbè. Sì, ok. Tranquillo, tranquillo. Va bene, stiamo tornando. Stiamo tornando piano piano. Merde. E tra l'altro in tempo per i supplementari, fatemi dire. Perché è quasi finita, giustamente. Qui siamo all'88esimo, ma di là penso che stiamo oltre, non so quanti minuti di recupero. Quindi se lo sapete, no, amici in chat, forse ancora non mi state ascoltando, eccoci, ma se lo sapete. Eccolo, siamo tornati. Ditecelo. Siamo nuovamente in linea e adesso lo vado a scrivere anche su Telegram. Voi intanto sì, parlate. Lo hanno detto anche in diretta chat, quindi lo sanno. Dicevo, ragazzi, se già sapete quanto recupero ci tocca prima del supplizio dei supplementari, così se facciamo segnare la croce più che altro. Intanto diciamo, comunichiamo a tutti che è stato un momento di disagio. Nel quale sicuramente si era creata una frattura quantistica, nella quale ovviamente qualsiasi elemento di trasmissione dati non funzionava. Quindi, praticamente, noi essendo dei disagiati, abbiamo contaminato l'internet. Contaminato. Comunque, volevo rassicurarvi perché circa l'assenza della trasmissione, mia sorella mi ha scritto adesso su Telegram dicendo: oh, ma non parlate più, su Runtime c'è solo musica. Esatto. E io ho detto: no, guarda, siamo tornati, ricarica la pagina. E lei scrive a caratteri cubitali: ecco, sì, ok. Comunque siamo all'89esimo, probabilmente già è stato 90esimo, esatto, 90esimo abbondante. Più 3 minuti di recupero. Vabbè, quindi niente, si va sicuramente ai supplementari. Che rotture, cazzo. Lo so. Scusate, ma d'altra parte anche da loro sicuramente avranno subito questa interruzione tecnica, quindi anche loro non hanno giocato. Partita dal profondo proprio, raga, mi sono filtrato, scusate. No, ma ci sta, perché oggi a un certo punto. Però vedo un bel contropiede. Attenzione, ragazzi, c'è un bel contropiede che ovviamente la nostra finestra spazio-temporale sul futuro ci fa capire già che sai, non potrà niente. Esatto, però già comunque Francesco a quest'ora poteva stare già a pensare che fra pochi minuti stava magari suonando. Di nuovo. Poteva stare di nuovo in cameretta sua esatto, a suonare. Invece, certo. Che rotture, cazzo. Suonando con la chiave di dietro. Poi, è un appassionato di tabacco, no? Tutta la gente pensa male. Infatti, fa le pipe a mano. Esatto. Niente, volevo dire che se le stupide creature tramite Telegram mi mandano un MP3, cioè nel senso tipo un brano a caso del loro repertorio, insomma, cerchiamo un attimo di rassettare anche il panico e la scrivania, così ci prendiamo un attimo di pausa mentre che ci sarà tutta questa cosa della pausa tra il primo e il secondo tempo supplementare e via dicendo, insomma. Cioè dobbiamo ancora fare il primo tempo, sì, supplementare. Sì, vabbè, nel senso quello volevo dire, l'avete capito, insomma. Chiellini ha rischiato di prendersi un, non so se l'ha preso perché c'è stato proprio è caduto sulla palla, l'ha toccata col braccio, però angolo. Vabbè, questo non può essere rigore, cioè. No, però poteva essere cartellino per Chiellini. Cartellino marrone. Del resto marrone. Gioca nella Juve. E no, non facciamo sempre questi riferimenti. Ricordati quando c'è la nazionale, ci sono persone di tutte quante le nazionalità. Sono tutti azzurri. Esatto, siamo tutti amori d'Italia. Certo. E vabbè, Marco, me lo mandi un MP3? No, vero? Ce la fai. Sì, vai per mandarti questo MP3. Bravo, bravo, ok. Quindi lo stiamo creando da nulla. Svano, raccontaci questi ultimi Ma noi stiamo vivendo questi ultimi momenti fondamentalmente nella tre quarti italiana, di conseguenza stiamo un attimino subendo il momento, però stiamo cercando l'inerzia in contropiede e niente, c'è stato un allungo verso l'area avversaria, ma ovviamente il portiere è arrivato. chi l'allungo? In tanti l'hanno lungo, non si può dire chi l'allungo, è body shaming ancora, oh ragazzi. No, è body shaming nei confronti di chi l'ha corto. E body scemo? Vabbè. Ragazzi, allora se è così, non faceva ridere, insomma. Non troppo. Mi state dicendo che, insomma, questa cosa non fa. Dal tuo repertorio, che non abbiamo chiesto se per Insigne va la legge della L, visto che stavamo lì. Si chiama la sindrome del teorema di Pitagora. Anche perché la sindrome del teorema di Pitagora, l'hai fatta troppo complicata. Allora, il teorema di Pitagora e basta, insomma, perché poi alla fine è quello, no? Cioè, l'altezza, il quadrato costruito sui cateti, l'ipotenusa. Tappere da Perugia. Sui cateteri, che sempre, insomma. Anzi, risentiamo prima se c'era una telefonata ancora, vero? Pronto? C'è la telefonata? Pronto? Pronto, c'è la telefonata a Radio Chinoir. Pronto? Con due, cioè c'è i tempi di mio nonno, per davvero. No, ragazzi, è che fino un attimo fa era morto e devi anche capire questo. Sì, pronto. E intanto la partita, i 90 sono finiti. Buonasera, ma che Radio Chinoir? Sì, sempre noi, orgogliosamente. No, non è la dottoressa Recchioni? No, quello la mattina. Cioè, lo studio è lo stesso. No, perché c'è il duplex. No, è proprio lo stesso studio. Non è che mi vuoi dare una pasticcetta, hanno delle pasticchette che mo non gli posso dire. Se non mi vuoi dire, io come faccio a darti? Indovina un po' quali sono. Sono azzurre. Magari mi fa prendere un foglio della dottoressa e me lo scrive, poi domani mattina me lo vengo a prendere. Quelle azzurre sono tipo quelle per la gola. Sono le zigurie al puffo. Sono le zigurie al puffo, che te fanno il puffo, poi ti fanno venire. Sì, il bozzetto. Ma lei che ci deve fare, scusi? Mi faccia che. Per mal di gola. Ecco, mi ho sentito sotto il messaggio pubblicitario. Per mal di gola, signore mio. Comunque, io sono visto ma se fa male tonsille una volta per tutte? No, le tonsille non fanno male. Senti, visto che stiamo qua a Radio Chinoir, comunque, visto che ci stiamo, a sto punto ti posso chiedere una canzone? Sì, ce la vuoi chiedere, se la fanno in diretta, pensa, abbiamo il complessino qua. Chi è il complessino? Come si chiamano queste brave creature? Si chiamano Radio Chinoir Big Band. Quanto sono bravi. Allora, ho una richiesta. Sì, non so, una canzone. La sanno sicuro. Vecchia. Non so se la conoscono. È più è vecchia e più la sanno. Allora la sanno, perché sono dei tempi miei qui. Sì, loro sì. Come volevo, volevo chiedere se per caso conoscono e mi possono fare. La ragazza sul treno. La ragazza sul treno, la sapete, no? No, aspetta. La ragazza sul treno a vapore. A vapore, certo, perché. No, aspetta, no. La ragazza sul treno a vapore che va a Novara. Va a Novara, perché a Novara? Che faceva così? Ma gli indiani c'erano? Gli indiani c'erano? No, a Novara stanno gli indiani. Il treno a vapore. Vabbè. Ma stai per culare. Vabbè, ce la fai sentire sta canzone, vecchio. Cioè, basta, ciao, grazie, ciao. Te la facciamo sentire. Adesso la pasticchetta, prego Radio Chinoir Big Band. Oh yeah, yeah. Andavo a Novara col treno a vapore. Andavo perché mi piacevano tanto le signorine. Avevo incontri occasionali sul treno. Ma a volte per l'emozione non mi funzionava il mio pippo. sognavo un farmaco che dilatasse i capillari. Ma ancora non c'era, sicuro che non c'era, e mi accontentavo di guardare il panorama sul treno a vapore che faceva ciuf ciuf. Ti facevi le pippe. Dai, è un life mode. All'epoca c'era solo modo per farlo salire il Pippo quando non voleva, era prenderlo a sberloni, guardare i porno. Non c'erano i porno all'epoca. La vedo dura. Niente, porno, niente. Magari sì. Non era diffusa la pornografia a quell'epoca. La fotografia in bianco e nero. C'era la fotografia in bianco e nero, è vero, forse cosa. Postal market. No, qualcosa c'era, qualcosa c'era. Sì, postal market. C'erano le case chiuse all'epoca che costavano poco. Primo pelo 50 centesimi, 25. E secondo pelo... no, cos'era? 100 lire, 100 lire, perché diventando vecchio va via anche la memoria. Maledetta Merlina. Bene, la canzone finisce con questo giovane amante mai deluso dai suoi amplessi immaginari sul treno per Novara. Faceva ciuf ciuf, molto molto bello questo brano. E al 9000 in chat ci scrive: maledetto Morata, ho sonno da un'ora, ci tocca sono i supplementari. Allora sia proprio obbligato a vedere la partita. No, infatti, ma lui è, però gli piace stare a ascoltare noi. Allora ringraziamo il signor Tonino, che prima era lui, cioè non si è scordato di dirci il nome, che tra l'altro lo salutiamo, che si è operato alla prostata ieri, mentre la signora Luisa, che ha fatto le cataratte stamattina, ci abbiamo in linea anche lei, la signora Luisa, pure lei vorrebbe una canzone. Buonasera signora Luisa. Signora Luisa, hanno fatto le cataratte, Luisa, mica. Signora Luisa, non c'è la signora. Spero Luisa. Ce l'abbiamo sulla linea. Può essere, no, no. Ho ricaduta la linea. Vabbè, niente, non c'abbiamo la signora Luisa. Peccato. Peccato. La signora Luisa, che ricordiamoci, torna a casa presto, pulisce presto, ma di solito non pulisce il water. Per forza non ci vede. Esatto, c'è la cataratta. No, poi lei pulisce, però. Cioè, che poi... non sa cosa pulisce. Esatto. Pulisce sul pulito. Esatto. Ma poi la parete del gibbone chi la pulisce, Marco? No. Grazie tua, cioè, ma... dovete rinteggiare solo, secondo me. Dopo. Tra l'altro, bisogna sempre diciamo, a onor di regolamento. Bisogna vedere se poi fa testo, così come nei risultati ufficiali, il risultato dei 90 minuti, o se fa testo il risultato finale. Vediamo, questo, vediamo. Insomma. Questo è importante. No, lo dobbiamo stabilire noi, perché insomma anche questo già determina molto, no, di quello secondo che... Secondo me bisogna vedere il risultato finale... Finale dei, di far... dei 100, 130... Togliendo eventuali rigori, facciamo una torna. Ok, ok. Perché... Vabbè, sì, perché i rigori non fanno testo. No, cioè, perché 3-2 senso... sarebbe impossibile, no, no, alla fine. Beh, non è detto, alla fine, alla fine Spagna... Perché segnano tre rigori in 10 tiri, porca puttana. No, a parte i tiri sono 5, non sono 10. 5 a testa, però, quindi. Sì, però è successo, per esempio, la partita con la Svizzera ne ha segnato solo uno e la Spagna ne ha segnati solo 3. Cioè, nel senso, quindi, non è, che è così, non è così strano, cioè, non è così improbabile. Vabbè, ma dai... Vabbè, comunque niente, non facciamo un problema. Quindi la signora Luisa non c'è, eh? Va bene. Non so. Proviamo io, a... io la signora Luisa non ce la faccio. Senti... Spiace, ma. Vabbè, la cataratta. No, vabbè. Niente, non c'è. Non c'è nessuno che si offre. Sta guardando la partita la signora Luisa, ma non la vede. Sì, ma non la vede, sta guardando no, attraverso il forno e il microonde. Come quello. Magù. Come Magù, esatto, Mago Magù, no, il signor Magù, Mister Magù, che sappiamo, insomma, è poverino. Hanno fatto anche un film recentemente. È morto? Il signor Magù era morto già quando ero ragazzino. C'era un Mister Magù con Walter Matthau, ma proprio recente non è. Io mi ricordo che c'era un film di Mister Magù, poi... Insomma, sì, però credo che ormai abbia una ventina d'anni. E lo chiediamo a Google? Vai. Ehi, Google. Niente, Google è morto. Ehi, hey Google. Niente, è morto. Quando è stato fatto il film di Mr. Magoo? Potrebbe anche essere che... Ma nel frattempo te lo dico io, è un film, scusate, con Leslie Nielsen, non con Walter Matthau, ed è del 1997. Vedi, vedi, recentemente. Cioè, 97, ieri proprio. 24 anni fa. Beh, per me è recentemente. Sai, nel frattempo Leslie Nielsen è anche morto, però so che non... Leslie Nielsen, che non è... Ma c'è sempre Brigitte. Certo. Bardot. E che sopravvissuto. Anche Nielsen. Era meglio il contrario, con tutto il rispetto. Era meglio morire da piccoli, dicevo. Con i peli nel culo a batuffoli. Batuffoli, batuffoli, va bene. Intanto è passata in chat Melanie che dice: mi mancate, un saluto veloce. Quindi giustamente ricambiamo il saluto. E certo, anche non giustamente, anche ingiustamente. Anche giustamente noi comunque lo ricambiamo. Per esempio non abbiamo potuto salutare Girasole oggi, d'altra parte non c'è. No, non ci ha degnati, non ci ha degnati, devo dire. Altre cose da fare. Ah sì sì, sicuramente altre cose da fare. Tipo doveva mandarmi delle foto, non me le ha mandate. Quindi era impegnato a non mandarti le foto, esatto. E che sta ancora scegliendo, è indecisa su quale mandarti, quindi è colpa tua, l'hai alluppata in questa scelta. Probabilmente sì, perché insomma in realtà dobbiamo fare un lavoro, dobbiamo fare un video musicale, pensate, dopo tanti anni forse torniamo a fare un video musicale. Bravo Simo. Anche Alex Raccuglia in chat ci fa sapere che anche lui ha un sogno malvagio. Sì. Nel frattempo hanno spezzato i reni, non so bene come, voglio vedere un attimo il replay. Solo, ha picchiato il coccige. Belotti, si, aia, ragazzi, Belotti atterrando da un colpo di testa ha dato praticamente una culata. Una semplicissima culata. Oddio, però non mi sembra molto che l'abbia presa molto bene, sta ancora lì che soffre. Secondo me però quello che stava dietro glielo ha pizzato un pochino, cioè questa un po'... No, si lamenta il fatto che gli ha dato una gomitata, ma non era una gomitata. Non era il gomito. Non era il gomito. Ringraziando le Ziguli al puffo. Esatto. È vero, ma io a questo punto approfitterei un attimo di questo, insomma, fino a che l'Italia speriamo che segni, per sentire il dottor Pippo Campo, che dite? Lo proviamo a contattare? Mi sembra un'ottima idea. Perché per capire che cosa... Pippo, c'è gente che pippa, però fa meno rumore. Sì, lo diceva anche Di Bre, Pippo, ma poi... Non sappiamo. No, la polizia poi alla fine ci ha creduto, era andare a prendere. Ma era abbastanza verosimile che pippasse. Esatto. Insomma, quindi adesso proviamo a fare questo collegamento con il dottor Pippo Campo. Che in realtà poi alla fine un po' ci è mancato anche la volta scorsa. Insomma, abbiamo sentito poco. Poi ha sempre molto da fare, sempre pieno di impegni. Sta sempre insomma lì. Alla fine, che poi non sai se sta lavorando o se ce l'ha, magari, che non so, con qualche membro della sua famiglia. Non sappiamo. Insomma, quindi però non riusciamo a collegarci, come al solito la regia mi fanno cenno che non è possibile riuscire a connettersi con il dottor Pippo Campo, e quindi andiamo. Tra l'altro impegnato come lui, un uomo impegnato come lui, un professionista, un luminare come lui, è normale che sia sempre occupato. Esatto, luminare, e vabbè, allora dedichiamogli una canzone al dottor Pippo Campo, no? Giusto? Facciamo una sigla? Sì, un jingle per il... Vai. Sono Pippo Campo, sono un professore molto colto. Se siamo in confidenza, chiamatemi Pippo. Bello. C'è stato, ragazzi, un placcaggio da rugby che è costato un cartellino a Toloi, però vabbè. E vabbè, ragazzi, La partita sta diventando maschia. Perché si sono rotti le palle pure loro, diciamoci la verità. Stanno cominciando a perdere la lucidità. Non segnerà il più bravo, ma solo quello che forse si è rotto di meno il cazzo. Che quello che hanno appena inquadrato per la Spagna. Oh Maronna. Mamma mia. Mischione in aria spagnola, ma niente di che. Ma ve lo ricordate quello là, quello dell'Argentina, il giocatore quello proprio brutto? Valderrama, pare, si chiamava, può essere? Valderrama c'era, che brutto, però non ricordo se era brutto. C'aveva i capelli biondi a capoccione, insomma, non è che era brutto. Non era brutto, io non ricordo che era brutto. C'era la Ligabue che dicevi te. Ligabue, esatto. No, ma c'era anche il portiere, quello della Colombia, voi ricordate? Higuita, quello mezzo matto. Quello più che altro era matto scocciato. Quello era fuoco, però era pure brutto. Poi tra l'altro, cioè, nel senso, in un mondo, insomma... del calcio dove tutti più o meno ci tengono al look, lui andava con questi capelli, con i baffoni, cioè sembrava un porno attore degli anni 70, cioè era un po' Ron Jeremy, un po' Rongere. E poi se, se, che cos'era? Rongere. No, niente, era Escobar che qui insieme a noi che mugugnava giustamente. Ok. Però alla fine pure questa figura dei porno attori degli anni 70, insomma, meriterebbe dignità, no? Cioè alla fine quanti ne hanno cantato, insomma, durante i decenni, diciamo così, no? Porno attore degli anni 70, proprio è un classico, una figura proprio quasi una sorta di icona, ecco, icona. Che ne pensate? Di chi? Cosa? Complemento oggetto. Icona. Icona. No, io stavo ancora cercando di ricordare quali potessero essere i giocatori più brutti della storia. A me sono venuti in mente Ribéry. Ah, pure Ribéry è brutto forte. Però Tevez pure era brutto, cioè è brutto forte. Okay. Taddei per rimanere un po' a Roma, Taddei era proprio porello, dai. Natura matrigna. Sì, diciamo che allora negli ultimi vent'anni i giocatori che sono molto più attenti al look, più o meno anche quelli brutti, sono decenti. Vabbè, diciamo che con negli con anni il soldo... 70 e 80 i giocatori erano brutti, ragazzi. Vabbè, ma l'uomo degli anni 70 era brutto per definizione, con i baffoni, baffoni, sì, era proprio quel periodo storico, tipo... il virus della situazione. Ragazzi, ricordatevi che il calcio è uno sport che fa miracoli. Abbiamo giocatori calvi a 20 anni che a 50 hanno tutti i capelli, Tipo, cioè, tipo so Toto Schillaci, no? No, Schillaci, Conte. C'era Conte. Conte. Miracolo. Vabbè, io intanto riprovo. Tra l'altro, ragazzi, ho una domanda tecnica. Riprovo. Dovessimo andare ai rigori, no? Cosa facciamo? Li seguiamo con la differita o soffriamo? È brutta la storia, è vero. In effetti potrebbe essere un po' complicato. Tendenzialmente però inutile. Siamo qua a farci compagnia uguale, festeggiare o rattristarci a seconda di quello che succede. Intanto io continuo a provare a fare il collegamento col dottor Pippo Campo, ma non vedo che proprio non... Forse è un po' sulle spine, però strano che... No, mi dicono che non trova il telefono. No, ha risolto. Ha risolto. Ok, ce l'abbiamo. Diamo qui in collegamento con il dottor Pippo Campo. Buonasera. Allora, dottore. Risponde la segreteria telefonica del dottor Giuseppe Filippo Campo, no, psicologo psicoterapeuta del Centro di Nano Ricerche Cliniche Terapie Eterodosse di Stuttgart. Ok. Al momento non sono disponibile. Lasciate pure un messaggio, trovo il bit, vi risponderò a breve. Se non vi risponderò bene, lo farò domani. Se non vi risponderò entro domani, lo farò dopo domani. Se non lo farò dopo domani, lo farò tra tre giorni. Se non risponderò tra tre giorni, lo farò tra una settimana. Se non risponderò tra una settimana, ma dicevo, non voglio fare, che mi stanno un po' cazzo, che te ne affanculo, che te ne affanculo, che te ne affanculo, che te ne affanculo. È giusto. Io penso che non è che possiamo andare un pel cazzo alla gente. Però è là severo, ma giusto. È là, insomma, che poi ti accorgi del professionismo. Sì, hai ragione. Anche noi dovremmo mettere una segreteria telefonica sul Runtime Radio in questo modo. Sì, come con la Meglio GM, che non lo usa mai anche nessuno. Però diciamo che non c'era il beep. Quindi, cioè, dice lasciate un messaggio e poi niente. Non lo puoi lasciare. Sì, no. Forse abbiamo riattaccato prima del beep. No, io non ho toccato niente. Era attaccato prima del beep. Attaccato, quindi no. Chiamate. Possiamo provare, ma non abbiamo attaccato noi. Comunque riproviamo. Perché, cioè, nel senso, tu non mi dici c'è il beep e io c'è il beep, insomma. Cioè, se non c'è il beep, io poi non ti posso lasciare il messaggio. Pensa che quando ho sentito segreteria telefonica, la prima cosa che ho detto, poi lo mando a far culo. Questo, ma amichevolmente. Proviamo, sentiamo, insomma, se può funzionare adesso questa segreteria, o se magari è tornato nel frattempo, perché sai, potrebbe anche essere tornato. Però non risponde proprio, ci si è rotta pure la segreteria. Pronto? Risponde alla segreteria telefonica del dottor Pippo Campo. È cambiata. Ma c'è ancora tu? E ci metti un bagno laggiù, ma che cazzo? Un bip, tu non un pronto bip, un culo, un banda, ma cazzo vuoi sto bip? Bip, bip, bip, bip! Da bip e mamma ta. E che la grande puttanona che ha sucato bip. Ho capito, ma cioè, che ne sapeva dei apposta. Che ne sapeva dei bip? Sì, scusate, cioè. No, forse lo sa. Vabbè, ragazzi, uno non è che diventa un'eminenza, ma secondo me il dottor Pippo Campo c'ha la segreteria quantistica, cioè proprio quantistica. Esatto. Vabbè, comunque grazie, anche in questo caso non mi ha fatto lasciare il messaggio. Cioè. Però Pip, toglici una curiosità, Simone. Ma qualora fosse stato infatti possibile, che messaggio gli avresti lasciato? Ma vattene a fanculo, io, però scherzosamente, no? No, ma secondo me questo li lascia ai suoi clienti. Cioè, è un genere, perché comunque è una forma di terapia. Comunque. Certo, c'è il suo metodo anche nella segreteria. Esatto. È tutto calcolato. Tu hai quasi avuto l'intenzione per un periodo di tempo di frequentare il suo corso all'università, vero? No, già avevo finito l'università, quindi chi cazzo. Vabbè, tornare indietro per fare il corso con Pippo Campo. Io l'avrei fatto. Marco, tu l'avresti fatto? Io sono stato fortemente tentato quando ho letto il suo saggio numero 47. Che è sempre lo stesso che ha letto, però tu. 47? Ne ha fatti altri. È il 47 bis, anche meno sagge. No, quello è che secondo me si chiama tutti 47. Comunque era quello dove diceva praticamente la mano in faccia non è mai da codardo, che è una cosa bella, insomma. Queste cose ce le devi di prima che facciamo il collegamento, la prossima volta, cioè domenica, che è l'ultima occasione che avremo per stare insieme, magari potrebbe anche essere sebbene non so se in questo Euro 2020 c'è sta anche la finale per il terzo e il quarto posto, sapete, ora mi si sta. Perché dovrebbero farla? No, non lo so, non lo so. Credo di sì, comunque. Sì, anche io penso. Non può non esserci il terzo posto, comunque lo devi. No, tutto è merda. No. Dal secondo posto in poi, merda, esatto. Quindi, insomma, alla fine tutte squadre merda, solo una e la prima e la seconda sono meno merda. Diciamo. Mi sembra anche giusto, insomma. O vinci o sarà merda. Anche la seconda, vinci una medaglia di merda. No? La fa Pippone il gibbone. Ma neanche quella di legno, cioè pure quella di legno, no? Cioè, nel senso, la medaglia di legno che è quella consolatoria, no? Che poi è quella che prende sempre l'Italia al Sei Nazioni. Al rugby, sì, è la medaglia degli ultimi, sostanzialmente. La cucchiara di legno. Nel frattempo, ragazzi, aspettiamo l'inversione di campo, sta per iniziare. L'ultimo quarto d'ora vedo di agonia. Gente sdraiata per terra. Comunque, quindi, ragazzi, secondo me sono arrivati tutti quanti. Comincio a pensare che c'aveva ragione il gibbone. Anche se 3-2 ai rigori la vedo complicata. No, ma i rigori non valgono. Ho detto, non valgono i rigori. Quindi, secondo me la vedo dura che il gibbone sopravviva a questa situazione. Ha detto che l'Italia vince, vediamo un po'. Ho capito, però è complicato. Vabbè, per guadagnare un minimo di tempo ci possiamo sentire un bavano, ci sentiamo un bavano. Sentiamoci un bavano. Giusto così, insomma, sempre dalle stupide creature. Calcio! Ovation. Matt White. And my name is Bill Mura. And Simone Veladi is not pervenuto. E allora com'è? Bianco o rosso? Ah, bianco. Te, e l'Inter? E l'Inter ha perso. Guarda che carrozzeria quella lì, te. Io gli darei due picciolate. Anch'io. Hello? Sì, pronto. Ciao, sono Reto da Coldrerio. Sì, senti, no, ho sentito il pezzo, no, che mi hai mandato. Te bellissimo, te che live, te che suoni, te le bellissime. Te l'ho portato giù anche a tutti i miei colleghi della Migros. Te, ma che risate, te bellissimo. Sai, volevo permettermi di fare una piccola osservazione, perché sai, prendere in giro le etnie e non è poi una cosa così evidente. Te lo sai che io sono per metà svizzero e per metà italiano. Bon, la mia parte italiana se l'è un po' presa, però quella svizzera si è pisciata addosso, eh. Oh, oh, la vuoi sentire una bella storiella? Dai, vai. Chi è quel porco? Cari amici, bentornati in studio. Vi avevamo promesso un'intervista con le stupide creature e le abbiamo proprio qui. Allora ragazzi, dopo un brano impegnato e così musicalmente originale come Assessore alla Cultura, c'era davvero bisogno di pubblicare un brano come questo? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì. Bene, bene. Devo dire, sempre dei finali di brani sempre particolari, bisogna riconoscere, insomma. E mentre insomma, la partita continua ad andare avanti nella sua inerzia. Siamo ai crampi. Siamo, ecco, diciamo che entrambe le squadre secondo me sono un po' alla frutta. Hola, hola, hola. Oh, hola, così. Hola, Carlo. Hola. Oh, gente che entra... trasmettendo da... E lo stadio della Plaza de Toros? No? Hola. No. Osto, non tenemos cavolos. Computadores, teclado, Sinclair ZX Spectrum. Lo tiene Serraton? Lo tiene Serraton? Computadores, potentissimo. Sì. El Sinclair ZX Spectrum, este è la Spana. Che si è spana, che ha spanato, se giri la vita si spana, spanato, ha spanato la vita, è spana. Spana la Spagna, la Spagna è spagna, spagnata, è spana. Ma lo tiene se raton? Il raton il puntatores del raton, del topone, no? Il raton, quello vecchio con la balota, la balota, do balotas, esatto. Attenzione, diteci se sta succedendo qualcosa, sentiamo qualcosa. Potrebbe essere successo qualcosa, eh? Forse anche qualcosa di brutto. Però vicinato non rumoreggia. Non rumoreggia, quindi ho segnato la Spagna, non è successo niente, diciamo così. Comunque, benvenuto a Carlos Santagostinos. Carlos Antagostinos. Carlos Antagostinos. Giusto. Bellissimo. Carlos Antagostinos. Bravo. Certo, è in un posto sbagliato, cioè non è attinente con quello che stiamo facendo noi, però insomma, vabbè, è sempre dimostrare anche l'ospite internazionale. Sì, dimostrare anche la potenza di Runtime Radio, il fatto di fare collegamenti e cose. Ok, c'è stato un gol, ce lo fa notare Arturino, lo stiamo vedendo anche in questo momento, ma c'era la bandiera nel fuorigioco alzata, quindi ciccia. Aveva segnato la Spagna. No, noi avevamo segnato. Scusate, ragazzi, ma incomincio a perdere. Sì, un lievissimo fuori la speranza. Gioco, millimetri. Comincio a perdere la speranza. Bravo, le corde vocali. Anche sì. No, e vabbè, ragazzi, noi qui ci stiamo già cercando di abituare alla lotteria dei rigori, all'idea della lotteria dei rigori, a cercare di capire come faremo a seguire in diretta, ecco, qui dal nostro piano, ecco, spazio temporale. Allora, diciamo così, ma la lotteria dei rigori, tu il biglietto l'hai comprato oppure lo devi ancora andare a comprare? Perché forse fai ancora tempo. Te lo danno. A me li regalano. Ah, noi ti regalano addirittura. Sì, sì, tanto sono quelli dell'anno scorso. Qual è il primo premio della lotteria dei rigori? Scusate. Sto cazzo. No, vabbè, sentiamo. Pensa al secondo. Manco un cazzo, quello è il problema. Esatto. Ormai siamo proprio trascesi nella volgarità. Sì, no, ma è quando la stanchezza subentra la creatività, allora muore. La buttiamo sulla volgarità. Hai ragione. È stato comunque colpa del pezzo che è stato trasmesso prima, che si intitolava Forza di Gravità. Esatto, si intitolava, hai ragione. Ci ha trascinato un pochino verso il basso, se vogliamo. Tra l'altro, bello carico pure parte il brano, insomma, quindi bello interessante. Ricordiamo che lo troviamo nell'album Podart. Podart. Tra l'altro, possiamo raccontare un retroscena di Podart? Certo. Non so, Marco, tu mi confermi, so che Mauro è d'accordo, però vorrei sentire d'accordo tutti quanti, insomma. Io vorrei dissentire, ma gli altri delle stupide creature sono non tutti dissentono, d'accordo. Ok, perfetto. Cioè, praticamente, quando noi abbiamo iniziato a fare il progetto del podcast, insomma, di Stinti Starnuti, abbiamo pensato di fare una sorta di gobala, no? Cioè di inculare iTunes in qualche maniera, cercando di pubblicare. Tu vuole inculare me? Esatto, cercando, te lo ricordi, Marco? Abbiamo cercato di pubblicare l'album, sì, come podcast. Esatto, cioè l'idea era quella di fare un album praticamente pubblicato con una canzone al mese proprio su iTunes, però iTunes ha pubblicato e quindi ha creato il feed RSS. Il primo giorno chi è riuscito a iscriversi so che è riuscito ad avere tutti i brani o quasi, ma il giorno dopo, resosi conto della truffa che stavamo cercando di compiere, cioè quella di distribuire gratuitamente un album su uno store di musica digitale, esatto, siamo stati bannati. Anche se noi abbiamo una teoria, Mauro, che forse non è così tanto lontana dalla verità, che la copertina abbia indotto la censura. La teoria della copertina, famosissima teoria. Quella della merda, dici? Esatto. Ma no, guarda, allora, ti assicuro che sul discorso delle copertine su iTunes ho visto anche di peggio. Cioè, il problema è che quando tu invii un podcast ad iTunes, soprattutto allora, ma è così anche oggi, loro fanno una sorta di revisione automatica, no? Cioè loro di primo acchitto vedono se il feed è vuoto o se c'è un file. Se c'è un file lo mettono già in prepubblicazione dicendo che il podcast è under review, no? Cioè nel senso che comunque ci sarà qualcuno che si occuperà di ascoltarlo se è aderente, diciamo. Però poi questo podcast in realtà alla fine è stato pseudo pubblicato fino a che il giorno dopo, tipo, mi è arrivata una mail un po', come posso dire, insomma, innervosita, diciamo, da parte di iTunes, dicendomi che in realtà noi avevamo cercato appunto di pubblicare, che era stato rifiutato, insomma, e noi non ci capacitavamo, perché mi ricordo con Marco ci interrogavamo per un periodo di tempo, ma com'è questo podcast? Ce l'hanno rifiutato, e poi era ovvio, insomma, cioè iTunes vende musica e noi siamo andati là, gli abbiamo infilato un album gratuito a caso, tra l'altro la via traversa, insomma, diciamo. Però ma è lì che Steve Jobs è morto di crepacuore, giusto? Non è morto di crepacuore, poverino, però insomma... è la versione ufficiale, in realtà l'avete ucciso voi. Esatto, siamo stati anzi è stato Marco Bianchi, cioè più che io, perché io ero un mero esecutore tecnico, tra l'altro. Con i nazisti questa scusa non funzionava. Non funzionò a Norimberga, non funzionava. Non per tutti, però qualcuno forse, giusto Carlos Antagostinos. Este notato che della balota la verza sta argentata. Eh sì, ogni tanto la cambiano, secondo te, perché siccome che i cavoli verza l'abbiamo verza argentata, le verze le abbiamo regalate noi, tutte praticamente, stasera le abbiamo regalate tutte e tre, e che le avevamo, e quindi tre, no, due, tre, quante ne abbiamo? Io mi ricordo due. Due, ok, abbiamo le ultime due, le abbiamo regalate questa sera, e quindi sono dovuti ricorrere praticamente al pallone argentato. Se poi regaliamo anche quello, la prossima partita la fanno col tango. Non so se col super tele. No, quello ai mondiali, tango argentino, scusami. Tango argentino. Questo è l'europeo, non c'entra. Ok. Comunque io so che per la finale non ci può essere un tango spagnolo, per esempio. No, c'è flamenco. C'è flamenco. Spagnolo. Flamenco. Io non so, è una tarantella italiana, perché. No, dicevo, io so che per la finale invece regaleremo un radicchio trevigiano, vi risulta? Trevigiano, non lo so, perché... Dipende come va la partita. Dipende da quello che insomma la proprietà della radio ci mette a disposizione a secondo degli accordi che fanno con gli sponsor. Con l'Ortolano, esatto. Sempre gli sponsor, quelli che ricordiamo, insomma, che tra l'altro in Distinti Starnuti c'era una pubblicità proprio di un... di un tizio che vendeva cose, insomma, un pizzicagnolo, cos'era, non mi ricordo. Sì, era uno che vendeva ortofrutta. Ortofrutta, si chiamava Ortaggi Tua, è stato uno spot bellissimo, dall'altro dove parteciparono anche delle voci originali del posto, insomma. Esatto, tu e tua moglie. Ragazzi, io intanto segnalo una statistica per gli amanti dei numeri. Tanto il mio computer sta decollando. Il possesso palla di questa partita era in rapporto 65% Spagna, 35% Italia. E quello è abbastanza normale. Con la Spagna che ha praticamente finalizzato 3 volte il numero di passaggi dell'Italia, quindi tipo 600 a 200, tanto per darvi un'idea di come siano andati un po' gli equilibri di questa partita. Vabbè, ma loro giocano così, però, certo, cioè, certo, nel senso, alla fine è quello, sì. tic e tac, sono buoni tutti, cioè, gioca? Quaglia? Tic e tac e le caramelle. Tic e tac, le caramelle, esatto, che io tra l'altro quando ero bambino facevo finta che erano medicine. Ah beh, tutti quanti. Anche le Ziguli, forse più le Ziguli, sì, però, Perché avevano proprio quella confezione, l'astuccio, esatto, da medicina. Per farti abituare sin da piccolo a essere un pasticcato, esatto. Facevi finta, cioè le falqui sono più o meno uguali, facevi finta che erano lassativi. Che gioco divertente. Non l'ho capita, però vabbè. No, facevo finta che c'era una malattia grave, che mi prendevano queste cose. Ma in effetti ha una sua logica, perché erano vendute in farmacia, se non ricordo male. Sì, ed erano vendute come, cioè, se alla fine c'erano gli stick come quelli delle pasticche, sì. Insomma, quindi alla fine e costavano come una medicina, costavano tanto, però c'era frutta davvero. Cioè, io devo dire la verità, me le mangiavo le Ziguli perché mi piacevano, però oggettivamente facevano anche un po' schifo. Cioè. Ma in realtà erano molto cartellino zuccherine. Gaillo, sì, sì. Per Bonucci, mi sembra. Vabbè, ragazzi, vabbè, sono anche stanchi, dai. Stanchi, pure questi arbitri che si agitano. Si alza un po' la gambetta qui. Necessita il calcio d'angalo. D'angalo, esatto. Voi sapete che noi l'abbiamo intervistato Dino Dini, che per chi non sa è quello che ha programmato Kickoff, ma ne parleremo in un'altra occasione, anche se è più o meno attinente. Simone, prego. Simone, volevo farti una domanda. Siccome non conosco nessuno al tuo pari circa la videoludica, sì? Mi chiedevo se tu fossi a conoscenza di un videogioco, sì? Non è una battuta, sì? Te lo sto chiedendo veramente, sì? Che ti permetta di partire con la tua squadra, tipo la Lumezzane, sì? Dalla serie C1, C2 o magari addirittura Primavera, sarebbe bellissimo, sì? E che contempli la presenza di stadi sempre più belli a seconda della serie in cui approdi. Cioè, il mio sogno sarebbe avere la possibilità di partire dalla Primavera, però proprio sui campetti, capito? E allora, esiste un videogioco che fa questa cosa, però non manageriale, cioè che si possa giocare. Vabbè, manageriale, c'è solo quello manageriale che ti permette di... No, tipo PES, però fatto così, capito? Beh, PES e FIFA ti permettono di partire dalla Serie B. I campetti. Ho capito, però se io gioco Como Cittadella, no, mi fa giocare al Meazza, no, capito? Non ci sta, sì. Pensa che però esistevano delle mod una volta solo per PC, per FIFA, dove c'erano i campetti, i campacci, i stadi brutti, quelli proprio. No, che figata. Quindi insomma. Comunque si dice le medane. Le medane, cosa? Le lumezzane. Le medane. Le medane. Perché? Sì, è dialetto. In dialetto locale, suppongo. Ragazzi, io più guardo. Quindi il dialetto di Lumezzane è molto interessante, perché Lumezzane è stato negli anni, è nata come nel Medioevo, come carcere, come paese dove venivano esiliati i criminali. Nel Medioevo, praticamente, e siccome è in mezzo a una valle, su una montagna in alto, mandavano lì i criminali che venivano praticamente esiliati lì dentro, in questa valle, e quindi è sempre stato un paese molto, molto isolato, e ha sviluppato un dialetto che è completamente diverso dal bresciano che si parla nella provincia di Brescia. È un dialetto che si parla solo lì. E siccome è stato isolato per tantissimi anni, fino agli anni 60 praticamente, cioè fino agli anni 60 non conosceva la civiltà, in pratica. Ci sono tante parole che fanno morire dal ridere in dialetto lumezzanese, perché per esempio la lampadina, che è una cosa moderna, la luce elettrica, a Lumezzane la chiamano la scoja imbottigliata, che vuol dire la scossa imbottigliata, dentro nella bottiglia. No, bellissimo. La scocca imbottigliata. Viva Lumezzane. Grande, vedi quante cose si scoprono con Carlos Antagostino, che da spagnolo è diventato bresciano così improvvisamente. Quando è arrivato l'autobus, che non lo conoscevano, hanno visto per la prima volta arrivare questo. Comunque autobus. I calci di rigore, ragazzi. Lo so, appunto. L'hanno chiamato l'autobus era la bestia blu, la bestia blu. E le gomme dell'autobus perché della, era un pullman turistico, quindi non era neanche un autobus. La bestia blu è perché gli autobus erano blu nella provincia di quelli interrompati. Anche da noi è così, sì. Arrivava la bestia blu e con il budel erano le ruote, quindi se si bucava la gomma si sbrisava il budel della bestia blu. Ma poi com'è finita questa storia? No. Continua, perché hanno tutti un sacco di modi di dire. Per esempio, per dire quanto costa dicono quessunei, che vuol dire quanto suonano, perché usando le monete di ferro buttandole a terra faceva rumore, quindi quanto suona vuol dire quanto costa. Ma per dire, vabbè abbiamo capito, dai, mo non è che potremmo salutare con la palla delle Lumezzane. Comunque, cioè, bravo Carlo. Ma poi questo è per citare il Lumezzane e Lumezzane. Ma poi si sono integrati con la società o ancora stanno così? No, praticamente sì e no, nel senso che poi Lumezzane è diventato un paese di industriali, di fabbricatori di pentole e posate. Che sono diventati ricchissimi perché lavoravano tipo 24 ore al giorno, e si dice che a Lumezzane ci sono più ditte che abitanti, che è vero. Un paese che si è sviluppato completamente in verticale perché è attaccato alla montagna. Tu praticamente, se tu vai a Lumezzane, ci sono delle case che hanno l'ingresso al primo piano su una strada e al terzo piano sulla seconda strada, quella che sale di sopra, che gira praticamente. Scusami, anche Carlo, l'ospedale. Arturino fa una domanda importante in chat proprio riguardo alla bestia blu, ma poi alla fine se la sono mangiata alla griglia? Beh, se c'era Carlo, sicuramente poteva succedere. Poteva succedere. Bestia. Sarebbe potuto succedere, certo. Esatto. Bene, Francesco, amico, tu che sei contento di calci di rigore, come funzionano i rigori, Francesco? Diccelo tu, dai. Funzionano che, allora, c'è la rete. Prima di tutto devono costruire la rete, devono vedere se ci sono dei buchi più grossi della palla, che può darsi di sofformate, come insegna Olli e Benji, in quelle cacchie di palle ovali, quando diventano ovali. Poi ci si posiziona uno alla volta di fronte al disco dei rigori, il portiere sta là e deve decidere se buttarsi a destra, a sinistra o stare fermo. E a volte succede che però mentre quello che calcia deve calciare in alto a destra, in alto a sinistra, un po' più a destra, sempre un po' più, vabbè, in tutte le direzioni. Chiellini che sta perculando. Devi premere il cerchio in base alla potenza e tu devi decidere. Solo il fatto che se giochi X, cerchio, è vero. E il fatto è che se giochi in multiplayer locale con i rigori è sempre una stronzata, perché l'avversario può vedere dove stai premendo, quindi devi inventarti dei modi per beffarlo. Quindi è peggio del, comunque, peggio del poker. Chiellini è in preda a un delirio, ragazzi. Sì, stava perculando. Perché forse è dovuto. Bene. Mentre invece c'era un tizio che alitava in faccia a Donnarumma e gli diceva cose, e lui faceva sì. Tra l'altro, avete visto l'altro giorno, mi pare alla prima o la seconda partita, il tifoso italiano che allunga i 20 sacchi a Donnarumma, sì, a Donnarumma, e lui si mette a ridere. Vabbè, insomma, dai, ci sta, purtroppo se le beccherà ste cose. Essere anche un po' cercate, diciamo, tutto sommato. Quindi calci di rigore, 5 per parte, e vedo insomma che sono tutti amici. In realtà, come va, dopo vanno a mangiare tutti insieme. Basta che se ne andiamo. Vanno a mangiare la bestia blu. La bestia blu. Taglia de tacco, taglia de punta. Quanto è bella questa assunta? Allora, giusta colonna sonora alle immagini che vedevamo. Bellissima. Dai, a questo punto immedesimiamoci un pochino. Primo calcio di rigore per l'Italia. Lo tira un ragazzo riccio con la barbetta. Madonna, che suono inquietante. Il gibbone, Pizzi, dove sta il gibbone? Il gibbone ce l'ho io. Dobbiamo sentirlo. dimenticati. Bene, ci siamo fatti fare il primo. Beh, ragazzi, ricordatevi sempre che chi sbaglia il primo. Ma questo non è un rigore, cioè non lo puoi tirare così. Rifacciamolo, non puoi tirare così. Facciamo una petizione per rifare il rigore. Ma come una cazzo? Pita. No, vabbè, ragazzi. Gli ha mandato una mail, non un rigore. Sentiamo cosa ne pensa la scimmia di questa cosa. Dai, Peppone, dai, che ce la potresti fare. No, Peppone già deve morire. Ce la può fare. Dai. Vabbè, Peppone, stai calmo, stai sereno. Che adesso vediamo che cosa succede con il primo rigore della Spagna. Vedo dei tifosi che pregano in maniera un po' invereconda. E c'è questo. Oh, bene. Mandata sulla luna apposta. Beh, io lo dicevo a Gualdi prima, che non è così strano, insomma, che quando si arriva a queste competizioni a questo livello, cotti magari anche dopo 150 milioni di minuti. Quindi, insomma, per ora la situazione è pari, perché due pippe hanno tirato due calci di rigore. Dovrebbero essere migliori. E insomma, Francesco, tu come l'avresti tirato questo calcio di rigore, per esempio? Attenzione, Belotti, l'effetto, però non lo so, una cosa che si faceva con i vecchi FIFA, che quando erano ancora molto arcade. Io sono rimasto a quelli, certo. Beh, diciamo che l'effetto ai calci di rigore è un po' complicato, però tutto può essere. Portiere della e Spagna, Belotti realizza Grillo ballerino. E Belotti ha fatto è il gallo Belotti. Ma che ballo, il ballo Belotti. Comunque ha segnato il gallo Belotti, e questo potrebbe essere una cosa positiva. E insomma, bisogna pure vedere un attimo che cosa ne pensa, se incomincia a avere delle preoccupazioni. Tra l'altro, però, scusa Marco, abbiamo detto che i rigori non valgono, quindi comunque ha sbagliato. Beh, ma aspettiamo fino alla aspettiamo, fine. Aspettiamo, magari, che ne sai? Se i rigori non valgono, che ne sai cosa? Vediamo. È perché noi ci aggiustiamo le cose come ci vanno a noi, vediamo, giustamente. Vediamo. Magari ci azzecca, magari. Certo, è un po' fastidioso. Ma però, poi ma poi che c'ha il catarro? Che c'ha? Cominciamo a portarsela la Spagna ha pareggiato. L'altra puntata, certo, è tosta, insomma. Cioè, comincia a diventare pesante. Sì. Quindi siamo 1-1 ai calci di rigore, quindi. Se volete uno spoiler? Spoiler. 2-1. 2-1. Con gol di Bonucci. Cioè, già fatto te? No, lo senti? Gli informatori. Oh, sì, ok. Hai delle, quindi Bonucci si sta avvicinando per tirare il calcio di rigore, almeno sappiamo. Che non lo sbaglia. Che poi, vabbè, cioè, che poi la cosa questo è brutta. Questo dite voi. Esatto, perché poi nel nostro universo, come mi insegna Carlos Antagostino, potremmo ritrovarci in una linea temporale differente. Esatto. Tra l'altro, spiazzando il portiere ci sta. Però attenzione, perché potrebbe darvi anche un altro spoiler. Prego. Anche il terzo rigore della Spagna viene realizzato. Viene realizzato, va bene, certo. Che belli questi replay, però. Guarda, che belli, belli proprio. Tra l'altro, la batteria del mio portatile è estremamente esausta. Sì, di solito dura di più. Purtroppo ha dovuto subire. Sono stati quei minuti di disconnessione. Esatto, ha dovuto subire un attacco hacker che tu non sai. Perché... Un attacco acaro. Acaro, esatto. Non mi parlate di acari, che ieri abbiamo dovuto togliere qui in casa, a casa c'erano due tappeti enormi, abbiamo detto sbattiamoli via, portiamoli giù, e nel frattempo si è riattivata tutta la mia allergia, perché c'era un bel po' di acari. Sicuramente sono stato per una giornata con mi è colato il naso, ma nel senso che si è squagliato il naso e mi è colato direttamente. Che schifo, brutta cosa l'allergia, che schifo. Brutta cosa pure l'acari, però poi no, fanno schifo, insomma, diciamo. Sì, lo propongo come animali per la prossima volta, gli acari. Ma che verso fanno gli acari? Attenzione, ragazzi, attenzione, potrebbe essere successo qualcosa. I brusii quelli belli. Potrebbe essere successo qualcosa. Adesso noi realizziamo e ok. Ok, quindi l'Italia ha segnato. Se la Spagna sbaglia, che succede? Non lo so. Non lo sappiamo. Però so che potrebbe stare per succedere qualcosa di interessante dai brusii, da quello perché noi abbiamo due fonti, quello che vediamo e quello che ci certuino. Quello che vediamo, che di solito è due o tre minuti, due minuti. Io vi rivelo un un segreto. Fatima. Che io mi sto affidando solo all'altra fonte che stavi dicendo, quella dei suoni della gente. Stavolta, cioè, non ci ho neanche provato a guardare la partita. Non te ci sei proprio mai. Hai fatto bene. Perché il nervoso, lo immagino, sentivi l'ansia. E qua è il grande Donnarumma che sta guadagnati altri. Lanzio, vero Fede, Francesco Lanzio, non ce la facevi a sopportare. È una brutta storia questa, Adesso ce n'è un altro ancora, però, purtroppo. Sì. Attenzione! Quelli belli. Attenzione! Qui il vicinato esplode, tutto il vicinato stanno un rumore incredibile. Lo sappiamo, lo possiamo dire. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, dai! Ma che ce frega, cazzo, dai! Alla fine esplodono le bombe. Dai! Ma sì, musica a casaccio. Momento sì, ho sentito tremare il pavimento praticamente, quindi cioè, sentivo una bomba esplodere qui, perché poi ogni occasione è buona per fare del buono. Che tenuta per la rivoluzione contro della dittatura sanitaria. Michela sta andando a Fontana di Trevi. Presto, manca ancora una partita. Le regole dei rigori. Ma guarda come gliel'ha messa di fino Giorginio! Cazzo ragazzi, grande! Giorginio ci porta in finale! Michela, se vuoi di Forza Italia! Non si può dire. Ebbene ragazzi, dai, questa è stato un po' un massacro stasera. Ma per tutti, però. Devo dire la verità, insomma. Saluti dalle Medane. Ci godiamo questo momento in cui dopo tantissimi anni l'Italia torna in una finale di competizioni internazionali. No, e c'è gente che fa bricolage nel palazzo. Esatto, sta succedendo di tutto. La finale la gioca la Lumezzane, visto? Sta succedendo di tutto intorno a noi, ragazzi, una cosa che non vedevo da tantissimo tempo. Tutto sommato mi fa anche sorridere, cioè, per quanto il calcio non ce ne freghi un cazzo, ci possa anche suonano le padelle, mi dicono suonano le padelle. Ma non mi sentite più. Ma viene de piscio? Quindi ragazzi, io vi ringrazio Walter Sbano. Ciao ragazzi, ciao, andiamo a festeggiare. Ringrazio Marco Gualdi. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ringrazio Michela De Paola. Ciao. Che se n'è andata a festeggiare. Ringrazio le stupide creature. Bravi. E ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa sera, dove anche per una cosa che non ve ne frega niente potete fare un piccolo sorriso, un momento di festa. Noi ci vedremo domenica sera alle ore 20:45. No. Ciao! Aspetta, mo ti saluto, hai ragione. Carlo Sant'Agostino! Andiamo a Lumezzane, Beppe, andiamo a Lumezzane, esatto. Ci vediamo domenica alle 20:45 su runtimeradio.it per la finale Italia, non sappiamo contro chi, anche se ce lo immaginiamo. E ragazzi, grazie di tutto e buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.